vincere ancora! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bang bang. Crutchlow c'è, entra nella storia, si prende il ruolo che era di Barry Sheen, l'ultimo inglese che aveva vinto nella massima cilindrata nel 1981 ad Anderstorp in Svezia. Capolavoro di Cal Crutchlow, seguito da un altro capolavoro anche di intelligenza oltre che di guida, quello di Valentino Rossi e del suo team. In questo momento Higuain è indietro rispetto agli altri, fortunatamente siccome ha talmente tanta qualità che può far gol in un quarto d'ora, cerco di sfruttarlo in questo momento qui per le sue condizioni fisiche, comunque sì, come tutti gli altri. Quando giochi un preliminare come si è giocato, un po' di energie te le togli sotto l'aspetto della tensione, dell'attenzione, si buttano via molte energie. Ma le aspettative sono quelle di riuscire a fare 101% delle nostre possibilità, poi vediamo questo cosa può corrispondere nel panorama del nostro calcio. E Frank Chamiso alla ricerca disperata, Alessio deve schiacciare, se c'era punto per la zero, però ci deve essere punto anche per l'Italia, e l'arbitro dice di no. Ultimi scampoli di combattimento sul filo lì della sirena. Ma infatti c'è il reclamo, attenzione, c'è il reclamo da parte dell'angolo dell'Italia. E giocare contro Brasile a casa del Brasile con un palazzetto così tutto pieno, tutti dicono è difficile, molto difficile, quasi impossibile, io dico è bellissimo perché è emozionante, è eccitante, e l'eccitazione è una cosa che per giocare queste partite è fondamentale. È bellissimo giocare contro i primi a casa loro, è bellissima questa domenica, il mio cuore batte per le ragazze della ginnastica ritmica che hanno appena iniziato il loro ultimo esercizio, sono quarte dopo la prima rotazione anche con qualche polemica, prima abbiamo visto la Russia che andrà sul podio certamente. Paio di minuti, poi vi diciamo anche come vanno le nostre. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. D'altra che domenica parte bella, meravigliosa, ben più di così. Mi sembra davvero impossibile. Capita forse giusto una volta ogni 4 anni. Epilogo di questa Olimpiade, peraltro epilogo da leccarsi i baffi, perché stiamo aspettando l'Italia della pallavolo. Stiamo guardando le ragazze che sono in pedana, solite polemiche sui giudici, ma sappiamo che li controlla tutti Putin. Sì, noi capiamo poco, però se la Russia nell'esercizio prima ha perso uno dei nastri, com'è possibile che sia all'altezza podio? Noi capiamo pochissimo, il nostro Leo Turrini ne capisce molto di più. Ciao Leo. Ma io potrei citare Battisti o Mogol con il nastro rosa. Francamente adesso... Ci sono discipline nelle quali la valutazione delle giurie talvolta irrita l'osservatore. Sì. Mi ricordo che le nostre ragazze si lamentarono tanto anche a Londra 4 anni fa. E sì. D'altronde sono quelle discipline appunto nelle quali cosa fai? Non è che puoi dire c'è un computer che decide. Oddio, ho letto da qualche parte che adesso in America stabiliscono le condanne con un algoritmo. Magari si può applicare anche alla ginnastica ritmica, non lo so. Si potrebbe provarci, o anche alla lotta libera, perché abbiamo visto la moviola anche in pedana per il nostro azzurro in semifinale, gli è andato tutto a che vuoi fare, ma sai, tanto anche gli algoritmi li controlla Putin, è inutile star lì. No, vorrei far dire a Leo Turrini, se me lo consenti Giovanni... Innanzitutto mi sorprendo molto di trovarlo ancora vivo tra di noi dopo la partita dell'altra sera dell'Italia della pallavolo con gli Stati Uniti, però vorrei chiedere di fronte a tutto il mondo a Turrini quali sono stati i 3 momenti di più intensa goduria e libidine sportiva della sua vita. Tanto è finito l'esercizio delle italiane, assoluto? Sì, in assoluto. Beh, io sono talmente coinvolto da questa atmosfera. Voi non siete al Maracanazzino? No. Alle 9 del mattino ora brasiliana, 4 ore prima e 15 minuti della partita, era tutto murato. Siamo in un inferno verde oro tra tamburi, percussioni, mancano solo le vuvuzela sudafricane. È una cosa che non si riesce a immaginare. Penso che sarà un viaggio all'inferno, sperando di fare ritorno felici come è stato in questa epica partita contro gli Stati Uniti. Ma non voglio eludere la domanda del maestro Genta. Bravo. Che immagino, dai, sentendolo dacci tuoi stia tre... parlando da qualche spiaggia. È qua. Lupo, che stasera porta la bandiera alla cerimonia di chiusura, il tricolore, mi ha detto, ma sto Genta, ma com'è che non c'è mai? Gente si riposa, cosa vuoi? È un grande della radio. Ecco qui intanto, scusa, ma Leo, 18:033, questo è il punteggio delle italiane, che quindi fanno un totale di 35.549 in questo momento, sono sul podio, ma mancano ancora 4 nazionali. Lunga. Prego Leo. No, non voglio sottrarmi alla domanda, io rispondo mettendo insieme anche quelle che sono le reminiscenze dell'infanzia, Certamente questa partita Italia-Stati Uniti di pallavolo la devo collocare sul podio. Io credo sia stata l'equivalente di Italia-Germania 4-3 nel calcio nel 70, per chi ha l'età di ricordarla, una cosa indicibile, veramente faticosissima persino da raccontare. E poi, se mi concedete un ex aequo, perché qui entra in ballo anche il mio lavoro di guardone, beh, insomma, l'ultimo giro di Schumi a Suzuka nel 2000 con la Ferrari, che da 21 anni non vinceva il titolo iridato, e piangevamo tutti, e nessuno di noi, io gli ingegneri, ha guardato quell'ultimo giro perché eravamo nel panico che si potesse rompere un qualunque fusibile, e quindi avevamo voltato le spalle al circuito, allo schermo gigante. C'è anche un video che fecero i giapponesi, anche lì qualche cosa di indescrivibile. Ex aequo con la volata di Felice Gimondi, che saluto perché so che è un fan di Genta, campione del mondo nel 73, battendo Mertens, Ocagna e Merckx a Barcellona, una di quelle cose che nessuno avrebbe osato immaginare fino a 10 metri dal traguardo. Sì, oggi bisogna evocare lo spirito dei grandi italiani. Io evoco la vittoria della staffetta a Lillehammer, italiana, staffetta di fondo, a casa dei norvegesi. Ero molto anziano, ma stavo già anche lì. Devo dire che quell'ultima, come si dice in gergo, allungata di Sissio Fauner allo sprint, Da brividi, sembrava di a casa loro. Hai fatto a una casa bella loro. Citazione, perché come il maracanazzini oggi, i norvegesi per lo sci di fondo delirano, c'era uno stadio strapieno e non osavano nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi che i pastasciuttari italiani li potessero battere. Aspettate. Mi auguro possa capitare anche noi evochiamo lo spirito dei grandi. 800 24 00 24, oggi siamo in diretta fino alle 20, perché siccome questa è una domenica extra large, noi ci siamo regalati una domenica extra large, e quindi siamo qui fino alle 20. 349-238-6666, sms, whatsapp. Abbiamo un'ora prima dell'inizio della partita, che vi racconteremo in diretta con il nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao ragazzi, voglio farvi subito sentire una cosa, sentite un po'. Ecco, questo è il silenzio del maracanazzino, dimenticatevelo, perché poi quando fra pochi minuti sarà una bolgia, come già ci diceva Leo Turrini, sarà un inferno di samba, semmai all'inferno si balla anche il samba. Qua c'è una chiamata alle armi da parte di tutto il mondo della pallavolo verde oro, e non solo. Ad esempio, pochi istanti fa mi è passata davanti una delle leggende, una delle campionesse della Seleção femminile, che pure ha avuto sicuramente meno fortuna in queste Olimpiadi, Thaisa, che è venuta a fare il tifo. Poi vedremo se riusciremo anche ad agganciare qualcuno dei tanti campioni verde oro. C'è qualche italiano, Dario? Del maracanazzini. Beh, ancora non mi è capito. Certo, sicuramente c'è Leo Turrini, teniamo. No. Come giornalisti abbiamo serrato le fila, e oggi ci toccherà fare ancora più i tifosi rispetto al solito, perché inevitabilmente siamo chiamati al doppio ruolo, caro Giovanni, vista l'inferiorità numerica. Ma campioni chiaramente c'è il grande Andrea Lucchetta, e adesso qualcun altro magari riusciamo anche a pescarlo. Però insomma è chiaro che ci tocca fare il lavoro doppio oggi. Sì, ci tocca soffrire. Ci tocca soffrire. Noi lì abbiamo vinto un mondiale qualche annetto fa, però col Brasile i precedenti sono 8-1 per loro alle Olimpiadi, che non depone certamente a nostro favore. Saremo in collegamento fino alle 20, l'avete sentito, con Rio de Janeiro, con la finale del volley. Leo? Sono qui. C'è una sorpresa per te. Siccome tu l'hai evocato, per due settimane a fare la conta delle medaglie, ti abbiamo portato il Premier. Salutate l'oro olimpico numero 9. E vai col numero 9, ce l'abbiamo in tasca, è fatta. Ce l'abbiamo qui, segue con noi la finale del volley. E certo, Leo, perché vinciamo, il nostro auspicio è farcela sempre. Con Renzi in studio. È un colpo bassissimo, veramente. Colpo bassissimo. Ma che bassissimo! Con Renzi in studio per il volley e tripudio. Vinciamo al 100%. Leo, adesso lo strangolo io. Non ti preoccupare, lo sopprimo io. È matematica. Lo sopprimo io, Leo. Va bene. No, questo per dire che... Ho ragione al 100%. Noi soffriamo oggi, noi soffriamo, soffriremo fino alle 20, l'abbiamo detto, 8-0-0-24-0-0-24. È naturale, ma vinciamo. Ce la vogliamo anche un po' prendere al nostro modo. 8-0-0-24-0-0-24, abbiamo il traffico, poi torniamo ancora a Rio da Leo Turrini, fra un po' vi diamo anche le formazioni di Milan-Torino, perché non dimentichiamo il calcio, dalle 18 vi racconteremo anche Milan-Torino, sempre qui in diretta. Però abbiamo un grande personaggio, uno di quelli che 12 anni fa ad Atene c'era contro il Brasile. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. È chiaro che sapere che non è mai stata vinta una medaglia d'oro, quello credo che sia un pensiero che qualcuno dei ragazzi ha, però non deve, io non credo che rappresenti un peso o un'angoscia. Penso che sia un piccolo stimolo in più, ma non ce n'è bisogno, perché una finale olimpica non credo che abbia bisogno di stimoli. Ovviamente abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno, perché abbiamo le nostre chance, i nostri punti di forza, sappiamo quali sono le nostre armi per rimanere sempre in campo nel modo giusto, possiamo fare punto in qualsiasi modo. Io dico sempre che stiamo vivendo un sogno e che il sogno, finché non torniamo in Italia, nessuno di noi si riuscirà a svegliare. Nel momento in cui arriveremo in Italia con i nostri familiari, a seconda dell'esito, in qualsiasi momento o comunque risultato sia, ci renderemo conto di quello che stiamo facendo. Questi sono Blengini, Birrarelli e Lanza, meno un'ora a Italia-Brasile. Carissimo Leo Turrini, carissimo Carlo Genta, che nel 2004 ad Atene ha giocato. Anche Giampaolo Montali, che saluto. Montali, buonasera, buon pomeriggio. Ciao coach. Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti. Saluto a tutti. Cosa vuol dire fare una finale olimpica? Fare una finale olimpica è il sogno di chi fa i cosiddetti sport minori, tra virgolette, che però per me non sono tali. Cioè, se uno non gioca a calcio, il sogno della sua vita, qualunque altra disciplina possa fare, è quello di giocare una finale olimpica. Quindi direi che proprio è il massimo. Poi il massimo dei massimi è vincerla, ecco. Cosa che non è mai riuscita. No, ma infatti quello che volevo chiedere a Giampaolo è quanto può pesare il pregresso su questa squadra, che in fondo è molto giovane, è una squadra di passaggio verso il futuro. Quanto può pesare il pregresso di una medaglia olimpica mai vinta su questa formazione, Giampaolo? No, su questa squadra niente. Niente. Completamente zero. No, ma l'avete sentito anche dalle dichiarazioni dei protagonisti, dell'allenatore, dei giocatori. Cioè, questa è una squadra che non ha retaggi del passato, non ha la scimmia sulle spalle che aveva la squadra di Atlanta, che doveva per forza vincere, e neanche di quelle delle mie squadre del 2004, che ha giocato, che il massimo risultato che poteva ambire è quello di andare al massimo in una semifinale e poi è uscita a centrare la finale. Quindi questi sono ragazzi di un'altra generazione, giovani, freschi, si vede la loro faccia, cioè proprio non hanno dietro il retaggio del passato, e che fino adesso tutto quello che hanno fatto se lo sono meritati, e quindi adesso aspettano l'ultima partita che va giocata, palla dopo palla, senza tanti pensieri, e questo è l'atteggiamento più giusto e migliore di una squadra che si gioca una finale olimpica in casa contro l'avversario che gioca in casa. Quindi questo, non c'è atteggiamento migliore di questo, secondo me. Sì, Giannelli, che è il regista di questa nazionale, è nato 5 giorni dopo la sconfitta di Atlanta 1996, che rappresenta ancora la ferita aperta per la pallavolo italiana. Leo Turrini, per te Gianpaolo Montali. Beh, intanto lo saluto, perché per me è come un fratello, infatti non ci vediamo da 10 anni. E volevo approfittare per chiedergli tecnicamente chi o cosa può decidere questa partita, perché noi fin qui abbiamo giocato talvolta una pallavolo stellare contro gli americani, abbiamo vinto con una forza d'animo spaventosa. Il Brasile all'inizio era messo male, però francamente nelle ultime 2 esibizioni contro gli argentini e i russi, soprattutto contro i russi, è stato straordinario. Quindi, secondo te, chi fa la differenza? Beh, innanzitutto, ciao Leo, è vero che non ci vediamo da tanto tempo, però almeno mi aspettavo che mi dessi una chiamata, per tutte le cose belle che ho detto su di te nel mio ultimo libro, invece non mi hai neanche chiamato, Leo. Ma è un riconoscente, tu è riconoscente, Gianpaolo. Ma no, invece io l'ho cercato, Montali, ma da quando si occupa di golf, perché voi non lo sapete che è il direttore generale della Riders Cup in Italia, no? Ha cambiato numero, evidentemente adesso ha un cellulare satellitare, non lo so, è irriperibile. Guarda, noi l'abbiamo trovato, però gente. Leo, noi questa mattina gli ho mandato un messaggino, gli ho detto, ha risposto in 5 minuti, poi te lo giro. È vero, Montali ha fatto molte cose bellissime nella sua carriera, una sbagliata, ha parlato benissimo di me nel suo libro, e capita anche ai migliori. No, niente Leo, guarda, la domanda non è semplice, però posso dire una cosa: io ho visto giocare sia l'Italia tutte le partite, ma anche il Brasile, e devo dire che era tanto tempo che non vedevo un Brasile in difficoltà un po' tecnicamente, perché non dimentichiamo che il Brasile in questo momento qua non ha quel talento, quella qualità che aveva negli anni passati. Forse negli ultimi 30 anni, 25 anni, questa forse è la squadra con un po' meno talento di tutte le altre. E gioca con uno schiacciatore che Felipe, che a Modena stava in panchina, non giocava. È una squadra che ha avuto qualche problema, qualche difficoltà dal punto di vista tecnico, e quindi ha fatto molta fatica nel girone iniziale. Ha perso la finale di World League contro la Serbia, che non è neanche presente, non si è neanche qualificata. Quindi tecnicamente ha sicuramente dei punti deboli, e secondo me sono le cose sulle quali dovranno cercare di giocare l'Italia. L'Italia dovrà avere pazienza, perché è andata in finale grazie sicuramente a un fondamentale, che è quello della battuta, che è quello che è davanti agli occhi di tutti per quel finale travolgente di Zaza del servizio. Però potrebbe anche essere che oggi il servizio, che è un fondamentale che sente molto della situazione emotiva, potrebbe anche non funzionare. Ma la squadra secondo me deve stare molto calma, perché questo Brasile non è straordinario nella fase muro difesa, ha molte difficoltà dal punto di vista tattico a muro. Quindi io credo che se l'Italia si concentrerà sul cambio palla, anche se avrà momenti di difficoltà, insomma se la potrà portare a casa. È una partita difficile e complicata, perché logicamente giochi in casa a loro, però credo che è la faccia di questi ragazzi che mi fa stare tranquilla, compresa che quella dell'allenatore. Cioè, quindi questa è una cosa, secondo me, che al di là poi del risultato, quando arrivi lì, ci può far ben sperare. Però ecco, sul cambio palla direi che potrebbe essere proprio l'arma che ci fa la differenza. Belingini, allenatore che tra l'altro ha fatto un mezzo capolavoro, perché ricordiamo la storia di questa nazionale: un anno fa è passata dallo shock dell'addio a Berruto, anche di momenti un po' turbolenti, con di fatto la cacciata di alcuni giocatori. Credo che Belingini, leggevo da qualche parte, Montali, è molto diverso dagli altri santoni della pallavolo italiana. Ma intanto è stato uno alle guide nazionali sono arrivati, a seconda dei periodi, degli allenatori che avevano vinto tutto nel club, e mi riferisco a Velasco, Bebeto, Montali. Poi c'è stata un'altra scelta fatta da federazioni in momenti diversi di provare a mettere allenatori che non avevano mai vinto. Anastasi, per esempio, quando è andato in nazionale non aveva mai vinto, e Benglini si è trovato, non dico per caso, ma quasi, perché non aveva mai avuto risultati. La stessa cosa valeva per Berruto. Quindi ci può stare che si arrivi a allenare la nazionale senza aver avuto titoli precedentemente. L'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, deve essere una persona che governa uomini e persone e soprattutto che capisce gli uomini e le squadre che ha a disposizione. Io credo che Blengini stia gestendo al meglio le risorse che ha. È una squadra, direi che una delle sue prime qualità è quella che questa è una squadra che non è ingabbiata né in schemi tecnici o tattici esasperati. È una squadra che la lascia giocare, la squadra, a secondo il talento che ha, e non è neanche ingabbiata e chiusa dal punto di vista psicologico. Non ha mai fatto proclami, non gli ha mai fatto pesare che la squadra poteva fare risultato, e anche questa è una cosa, secondo me, che fino adesso ha fatto la differenza. Grazie Giampaolo. Grazie, grazie coach. Grazie. Grazie a voi. Grazie Leo. Ciao Giampi, ci vediamo presto. Ma fare un green sotto buche, molto bene, molto bene. Grazie Giampaolo Montali, con cui dunque abbiamo vissuto. Cosa ne pensa Torrini? Quello che ci disabile, aspetta. Cosa ne pensa Torrini? No, ma voi non sapete una cosa. No, tante Montali non ne sappiamo. Vive in un ex monastero che ha ristrutturato sulle colline di Parma una residenza imperiale. Di attraversettolo, di una bellezza, dove penso adesso stia facendo anche un campo di golf per farsi 18 buche, per chiaro, allenarsi, no, per la Ryder Cup. Però volevo aggiungere due cose, dato che avete parlato dell'allenatore, eccetera. Innanzitutto, consentitemelo, Berruto è stato ingenerosamente dimenticato da tutti, la vita è fatta anche di ingratitudine, questa squadra meravigliosa, senza togliere niente a Blengini, l'ha pensata e impostata lui, e mi fa piacere dirlo oggi che vive una dolorosa solitudine sportiva. L'altra cosa è che noi abbiamo un vice commissario tecnico di grandissimo talento. Voi sapete chi è? Chi è? Mikhail Gorbaciov. E voi direte: cosa c'entra Gorbaciov con l'Italia del volley? Sì. Ma io ve lo spiego subito. Ma se non c'era la perestroica, il padre di Zaitsev non avrebbe avuto il permesso di uscire dall'Unione Sovietica. Certo. Lui che era un eroe dello sport dell'Unione Sovietica, palleggiatore del CSKA Mosca, e Ivan il Terribile non sarebbe nato in Umbria. E oggi non sarebbe qui con la maglia azzurra. E metteteci anche quanto regna, perché a seguito delle politiche di Gorbaciov a Cuba nacquero tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto regna è il nipote di Alberto Guantoregna, El Caballo, uno dei più grandi mezzofondisti su 400-800 degli storia. Anni 70, ministro dello sport di Fidel Castro. Insomma, dobbiamo dire grazie a Gorbaciov. Ma bisogna dire vice allenatore dell'Ital Volley. Leo! Osmani Guantoregna e maglia azzurra per questo. Adesso chi c'è? Renzi, perché ho citato col Fidel Castro. Ma bisogna dire grazie soprattutto a Matteo Renzi, perché è fatta, è naturale, vinciamo. Ma non è vero. Ma io, Leo, io ti dico una cosa. Guardate, se l'Italia non vince il nono oro olimpico, io mi dimetto. Vinciamo, vinciamo. Beh, allora potremmo anche cadere in piedi, Torrini. Vabbè, ragazzi. Cosa vogliamo fare? Qui sta salendo la tensione, la febbre. Te l'ho detto, era tutto pieno alle 9, poi sono usciti a bere qualche cosa questi brasiliani alla fine della partita per il bronzo che gli americani hanno strappato ai russi. Adesso stanno rientrando e insomma forse è idealmente la chiusura perfetta di questa Olimpiade, perché Brasile-Italia è sempre un classico nello sport, ma non solo nello sport. E Roberto Carlos, intanto diamo purtroppo Battisti, e la Grappa, Rivera e Pelé. Se volete vado avanti, Vinicius Moraes. Leo, perché adesso abbiamo meteo e pubblicità, ma abbiamo soprattutto un quarto posto che ci fa piangere. Quarto posto dell'Italia nella ginnastica ritmica. Sul podio Russia, Spagna e Bulgaria, che ci ha preceduto per un paio di decimi di punto, non di più. le lacrime delle nostre farfalle. Perché sai benissimo che gli arbitri sono in mano. Ma si poteva arrivare pure i quinti. Si poteva anche arrivare quinti. Si poteva anche arrivare terzi. Torniamo subito 800 24 00 24. È fatta. Abbiamo le formazioni ufficiali di Milan Torino. Quindi rientriamo con un collegamento da San Siro. Italia, ragazzi, è la numero uno. Non c'è niente da fare. Non ci batte nessuno. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24. Tutti convocati. Sinceramente obiettivi devono essere anche, per essere credibili devono essere anche raggiungibili, no? Per essere raggiungibili devono essere anche credibili. Noi abbiamo necessariamente bisogno di entrare in Europa League, perché è la casa del Milan, quantomeno in Europa League, in Europa è la casa del Milan. Cosa mi aspetto, come mi accoglieranno? Ma non lo so, non ci ho mai pensato, non lo so, non sono quelle preoccupazioni che avevo in testa. Io, come ho detto diverse volte, non ho bisogno di rivincite su nessuno. Mi dispiace di non aver concluso la stagione, quello sì. Sotto il piano tecnico-tattico il calciatore ci può stare, la nostra cosa, il calciatore che per caratteristiche secondo me riesce a portare avanti il nostro metodo di gioco, no? Rispetto al nostro modello di gioco. Naturalmente ho chiesto anche Iniesta, ma non c'è stata nessuna possibilità, e anche lui più o meno alla stessa età. Questi erano Montella e Mihajlovic. Saluto subito Franco Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua, buon campionato a tutti. Hai sentito Montella, ha detto che voleva Iniesta. Sì. Però gli hanno portato Sosa. Però io devo dire francamente ho molto apprezzato che l'abbia girata sull'ironico, perché è l'unico modo per come dire, sottrarsi a considerazioni prima di cominciare molto negative, anche come dire, a un clima di depressione spinta che si coglie anche guardando San Siro. Sì, che credo si stia presentando con la veste dei giorni peggiori. I dati li abbiamo visti, più o meno 10.000 abbonati, oggi ancora contestazione. È tutto molto paradossale, nell'estate che doveva essere quella del cambio di passo dei cinesi, della nuova proprietà, di un mercato importante. Sì, è paradossale. Non si è visto niente di tutto questo, però, non si è visto. No, dico, non si è visto nulla di tutto questo, non Franco, soltanto, al di là del passaggio di proprietà. No, però, sai, il passaggio di proprietà sistemato nei due mesi di calciomercato, questo è il peccato mortale e originale al tempo stesso di questa vicenda, perché basta guardare invece quello che succede da altre parti, quando tutto questo accade nei periodi, nei mesi, diciamo, di attività per consentire alla nuova proprietà di intervenire, questo è obiettivamente il problema, il deficit numero uno del Milan. Il secondo, francamente, che molto mi stupisce e è un po' più inquieta, è quello dei cinesi. Per 2, 3, 4 milioni al massimo di differenza, Bentancur non arriva in Italia per il no dei cinesi. Allora io mi sono posto questo problema, è come se il proprietario di casa che io ho acquistato, devo soltanto fare il rogito tra un paio di mesi, mi dice: guardi che c'è il tetto che è bucato e viene giù l'acqua, che facciamo, lo ripariamo? E io dico no, è una follia secondo me, però può darsi che abbia torto. Sì, io. Ma no, invece può darsi che tu abbia ragione, e io lo dico, ho l'impressione che ci troveremo a parlare ancora di queste, di questa vicenda da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi. Vi leggo il primo Milan e il primo Torino di questa stagione. Il Milan giocherà 4-3-3 con Donnarumma in porta, Abate, Paletta, Romagnoli e Antonelli sulla linea difensiva, sì. Dunque non c'è De Sciglio, c'è Antonelli. A centrocampo Kučka, Montolivo e Bonaventura, il tridente davanti è Bacca prima punta con Niang e Suso sugli esterni, quindi di fatto c'è Paletta come volto nuovo di quest'estate. Il toro di Mihajlovic, Padelli in porta, De Silvestri, Rossettini, Moretti e Molinaro, poi Acqua, Vives e Obi a centrocampo e tridente davanti con Martinez, Ljajic e Belotti. Sulla carta credo partita subito difficile per Montella, per il Milan, per mille motivi, non soltanto quello ambientale, ma mi sembra che questo sia un toro, e poi insomma San Siro conoscono bene Mihajlovic, è un toro che ha tutto per mettere in difficoltà il Milan. Mi sembra tra l'altro una grande differenza dal punto di vista fisico in mezzo al campo, pensate un po' a qua e Obi con Vives che fa diciamo il regista contro Kučka e Bonaventura. Obiettivamente è lì che probabilmente si deciderà questo pomeriggio la sfida col Torino, e devo dire che però Montella ha un compito nel frattempo che si chiariscono tutte le vicende di cui abbiamo già parlato pochi minuti fa, e cioè quello di cominciare a dare al Milan un gioco in qualche modo passabile. Sarebbe già un grande obiettivo. Beh, mi sembra che si stia riuscendo, mi sembra che l'estate del Milan sia stata da questo punto di vista ed esclusivamente da questo punto di vista positiva, qualche, Franco. Però con qualche chiaro scuro, con qualche luce, ma qualche ombra anche, perché dal punto di vista diciamo è evidente che in pochi mesi non si può allestire una squadra dagli schemi collaudati. No, ma se vuoi torniamo a parlare della stoffa del Sarto, come fece un giorno Berlusconi con Zaccheroni. Vedrete che però il Sarto, con questa stoffa che tutti noi consideriamo, e i tifosi del Milan considerano di terza mano addirittura, vedrete che viene fuori un bel vestito, ma magari anche un doppio petto persino elegante. Sì, perché Montella è bravo, però però la qualità e la profondità di questa squadra non sono discutere. Molto da discutere. Sì, così come è molto da discutere, a me continua a fare impressione, anche se capisco che per una volta ci sia esercizio di realismo, sentir dire all'allenatore del Milan dobbiamo recuperare l'Europa League, l'Europa è casa nostra e l'Europa oggi significa Europa League. A me continua a fare impressione, ha ragione lui, finalmente, ha ragione lui dopo anni cioè, di bisogna proclami. Essere realisti, non raccontare le favole alla gente. A me continua a fare impressione. Lo so, però alla fine prendi per il sedere, no? Io devo dire francamente che ho apprezzato anche questo passaggio della conferenza ieri di Montella, perché è inutile raccontare la favoletta di Cappuccetto Rosso. Non c'è né il lupo cattivo né Cappuccetto Rosso nel Milan di quest'anno. C'è una realtà che ancora oggi io non so che cosa riuscirà a combinare Galliani nella prossima settimana ancora sul calciomercato, avendo vivendo stritolato tra i due padroni del Milan attuale che devono rimpallarsi il sì o il no, però non credo che migliorerà in maniera clamorosa la cifra tecnica di questa squadra, per cui avrà una squadra diciamo di modeste pretese, e però se riuscisse davvero a portarla in Europa League, a fare meglio dell'anno scorso, sarebbe da apprezzare fin da questo momento. Certo. Sì, questo è oggi il Milan. Grazie Franco. Ciao Franco. Ciao, alla prossima. Grazie a Franco. Ordine, Leo, sei lì? Sì, sono qui. Perché noi informazioni anche su Chievo Inter. No, Chievo Inter te le diamo dopo. Chievo Inter te le diamo dopo. È arrivato Malagò, io non ho potuto passarvelo al telefono perché c'era Franco che ci spiegava il Milan cinese, è furibondo per la beffa subita dalle ginnastiche. Ecco, sì, perché effettivamente insomma sa un po' di beffa quel quarto posto, tra l'altro davvero per un paio di decimi di punto, sì. Ma lo ripetiamo, con un esercizio, con un doppio esercizio che era quasi certamente da podio, da terzo posto. D'altra parte, Giovanni, se noi abbiamo un premier che non conta nulla, e i russi hanno Putin che governa il sistema degli arbitraggi olimpici, c'è poco da fare. Ciccio, ma cosa dici? Ma noi ce la facciamo al 100%. Lo posso dire anche a tutta la gente internazionale che ci segue. I bring luck. I am the talisman of fortune. Sì, the talisman. Torniamo a Rio dal nostro Dario Ricci. Dario. Con Albert, leggenda del volley brasiliano, oro olimpico ad Atene 2004 proprio contro l'Italia. Una grande emozione ritrovare Italia e Brasile qua al Maracanazinho. Ah, sicuramente, perché sono le due squadre che hanno dominato la pallavolo mondiale negli anni 90, all'inizio degli anni 2000. Quindi io sono un appassionato per l'Italia, ho vissuto in Italia per 4 anni e mezzo. È sempre bello una partita tra Brasile e l'Italia, principalmente in una finale olimpica. Speriamo una grande finale, che l'Italia giochi molto bene, ma che alla fine vince il Brasile, ok? Sì, insomma, scontato questo pronostico da parte tua. Dal punto di vista tattico, che partita ti aspetti? Aspetto una partita, anzitutto una partita un po' nervosa, una partita un po' tesa, perché l'Italia non ha mai vinto l'oro olimpico, questa squadra brasiliana non ha mai vinto un torneo importante, quindi è una barriera, le due squadre hanno bisogno di trovare, di andare un passo avanti, quindi sicuramente sarà una partita nervosa, tesa, però la battuta e la ricezione secondo me sono la chiave della partita. Quali potrebbero essere i giocatori decisivi da una parte e l'altra della rete? Sai che la pallavolo è uno sport di squadra, tutti i giocatori sono importanti, però quello che abbiamo visto di Wallace per il Brasile e Zaitsev per l'Italia, sono loro due che possono fare la differenza. Allora, buona finale e speriamo che tu abbia sbagliato pronostico. va bene. Capisco bene. Comunque, quello che vince è la pallavolo mondiale. Sì, capisce bene. Grazie Dario. Capisce bene Nalbert, Leo. Altra leggenda del volley che è lì a lui, vedere questa finale tra Italia e Brasile. È un grande campione, è passato dall'Italia come un'intera Modena, generazione. Credo, no? Di fuori classe brasiliani del volley, c'è una sorta di gemellaggio ideale, tra l'altro anche in questa partita che tra un po' comincia, mi avvio a prendere il mio posto perché sono già in una trance preagonica. I due pilastri del Brasile in realtà sono Bruno e Lucas, che hanno fatto vincere lo scudetto a Modena pochi mesi fa dopo un G1 che durava dal 2002. Bruno è il regista, è il figlio dell'allenatore Bernardo, e Lucas è il centrale. Tecnicamente forse l'unico vantaggio che loro hanno su di noi è che Lucas al centro è in attacco più incisivo di Birarelli e di Butti, e in più se gli entra ha un servizio terrificante. Però insomma potete immaginare, qui ve l'ho detto prima, cioè Italia-Brasile non è mai una sfida qualunque in nessun settore, loro amano la pallavolo quasi quanto il calcio, e quindi per loro come per noi si tratta veramente di una collisione apocalittica. È già capitato, abbiamo sentito Montali prima, 12 anni fa, però erano troppo superiori. Stavolta non lo so. Sì, non lo so, oggi si può giocare. È un confronto impari per il contesto ambientale, ma tecnicamente siamo 50-50. Beh, quanto conti il contesto ambientale l'abbiamo visto anche ieri sera al Maracanà. Con il Brasile che si è preso per la prima volta nella storia la medaglia d'oro del calcio alle Olimpiadi, e credo l'abbia fatto con particolare gusto, Leo, perché in parte ha cancellato quel 7-1 allora, del Mondiale. Una delle immagini che resteranno, a mio parere, di questi giochi è il pianto di Neymar dopo quel rigore. Adesso bisognava esserci a Maracanã, perché quando è andato a calciare dal dischetto Onei, quel pallone, ha voglia De Gregori a dire che un giocatore non si giudica da come batte un rigore, secondo me quel pallone lì pesava una tonnellata, perché c'era il ricordo che tu hai evocato del 7-1 contro i tedeschi nella semifinale mondiale 2 anni fa. Il Brasile non ha mai vinto l'oro nel calcio fino a ieri sera. Quando ha fatto gol, a me ha colpito moltissimo, di là dell'emozione popolare, la sua reazione, perché Onei, lo sapete meglio di me, voi che siete bravi, è uno degli sportivi più pagati del pianeta, e non gli si sposterà, credo, il conto in banca. Perché c'entra, le emozioni sono emozioni, me le insegni tu, Leo. Sì. E proviamo a spiegarlo agli ascoltatori tutti i giorni, non dipende dall'estratto conto quello che uno prova. No, infatti io ho visto in questo suo atteggiamento, c'era proprio la felicità del bambino, che è questo grande mito dell'Olimpiade. Noi dovremmo sempre raccontare l'Olimpiade dal punto di vista di chi vi partecipa, di chi la disputa. Ci sono troppi finti snob anche in Italia, vorrei dire soprattutto in Italia, che ti raccontano l'Olimpiade sempre con questi finti intellettualismi da furbetti del quartierino. Ma guardate questi atleti, io dico sempre questo, poi dopo possiamo discutere corruzione, imbrogli, giurie, sperperi, perfetto, io sono d'accordissimo su tutto, però quelli che sono qui, che siano Neymar o il nostro lottatore che ha perso forse ingiustamente, no? Hanno lo stesso spirito, lo stesso stato d'animo, la stessa adesione a un ideale che fra pochi minuti, tra mezz'ora, metteranno in campo 12 italiani e 12 brasiliani che giocano a pallavolo. Io devo andare a vedere questa partita, penso che morirò lì questa volta. Mi sono gratissimo perché abbiamo trascorso delle giornate insieme fantastiche, è stata un'esperienza bellissima. Rientro in una cassetta di zinco perché io alla fine di questa partita non ci arrivo. Ma non è vero, ma non fa, no, è così. Io ho visto la mia partita di pallavolo, che avevo 8 anni, dovete avere pazienza. Nella Panini Modena palleggiava un certo Musil, è vero, l'ha detto bene prima Montali, ha ragione, questo è un vantaggio. I nostri ragazzi non avvertono il peso della storia perché sono venuti dopo, sono nati persino dopo la delusione di Atlanta e tutto il resto, quindi per carità di Dio. Però noi che guardiamo, noi che siamo qui, noi che veniamo, diciamo così, da un passato, questa è una roba che abbiamo la scimmia addosso. Vorrei, c'è solamente una ferita da rimarginare. Martedì, ecco, fate parlare gente che sicuramente troverà parole toccanti per ricordare. Ciao Leo, buona partita. Ciao Leo. Anche a voi, ci sentiamo dopo. Ciao, grazie ciao, a Leo ciao. Turrini, grande. Sì, c'è una ferita da rimarginare. Io mi ricordo dov'ero, l'ora, il giorno in cui ad Atlanta 96 perdemmo la partita che non si poteva perdere. E sono convinto che in tanti, eppure era una partita di pallavolo che in Italia non è tutto, non è il calcio, eppure quel giorno lì c'è il traffico, siamo in ritardo, chiedo scusa. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Partiu Neymar con paradinha, la veia la batida. Brasile se l'è già presa ieri la sua medaglia d'oro, 8-0-0-24-0-0-24. Questa ce la possono pure lasciare. Ma insomma, se la sono già presi ieri, era una medaglia a cui tenevano. E so, avete sentito Leo Turrini, mi ricollego con Rio, Dario Ricci. Dario, è caduta la linea, adesso lo recuperiamo, no? Dario? No, non si sente. È caduto. Beh, insomma, Brasile che ha vissuto il torneo, tutto il torneo di calcio di queste Olimpiadi con uno spirito particolare, sacrificando certo, anche la Coppa America, eh? Sì, sì, ma giustamente, secondo me, perché già il Brasile non stava impazzendo di gioia per questi giochi olimpici. Sono sport in gran parte senza grandi tradizioni o senza grande cultura per il Brasile. Loro puntavano all'oro del cuore. L'oro del cuore non poteva che essere questo del calcio. Poi è arrivata la finale che conteneva tutti i fantasmi del passato, da quello dell'Uruguay che poi si è tradotto e si è reincarnato nel fantasma dell'1-7. Ha giocato contro la Germania, molto difficile questa vittoria, ma alla fine ha portato a casa il risultato che cercava. Questo per loro era la medaglia più importante. Ed è inutile nasconderlo. Sì, è stata celebrata come si conviene a tutte le medaglie più importanti. Poi ha ragione Leo Turrini, la pallavolo per i brasiliani è una religione, ma non quanto il calcio. Intanto mountain bike, siamo davvero alle ultime medaglie che vengono assegnate in questa Olimpiade. Molto bella questa gara. Molto bella la gara e anche molto promettente per i colori italiani, perché siamo al secondo di 6 giri e c'è uno dei due azzurri, Luca Braidò, che è lì con i primissimi. In testa c'è uno svizzero, Nino Schürter, poi c'è il nostro Braidò, ma fino a qualche istante fa era con il gruppo dei primi anche Marco Aurelio Fontana, che sulla carta è il più titolato dei nostri in questa finale di mountain bike. C'è anche Peter Sagan. Dario Ricci di nuovo da Rio. Dario, è caduto ancora, cerchiamo di ripristinare il collegamento, poi dopo il GR delle 18 vi racconteremo tutta questa finale del volley. C'è anche Peter Sagan che si è tolto lo sfizio di giocare questa Olimpiade in mountain bike. Sì, ma è molto interessante quello che stiamo vedendo nel ciclismo. L'altro giorno era qui con la medaglia appoggiata su questo tavolo Elia Viviani, che adesso ha un altro grande sogno che si chiama Mondiale su strada in Qatar. È un corridore, è uno stradista, è uno che ha vinto già tanto sulla strada pur essendo molto giovane, ora è campione olimpico della pista, ed è molto interessante questa permeabilità che esiste tra le diverse discipline. Sagan è stato uno dei grandissimi protagonisti della stagione del ciclismo su strada. È bello vederlo pedalare su questo sterrato molto duro dell'Olimpiade insieme a degli specialisti della mountain bike. Poi lui è un atleta di tale classe, di tale talento, che con la bicicletta sa fare quello che vuole. Questi sono un po' giocolieri, sono un po' equilibristi. Guarda quel tracciato tra tronchi e massi davvero scavalcare. Davvero qualcosa di molto spettacolare. Riproviamo il collegamento con Rio. Dario, eccoci ragazzi, siamo all'interno del Maracanazinho e come sentite inizia lo show che accompagna all'inizio della finalissima tra Italia e Brasile. C'è anche molta malinconia perché i volontari, ad esempio, si sono scattati le foto di rito. Finisce una grande avventura olimpica, ma prima del passo d'avvio e della cerimonia di chiusura c'è questa straordinaria finale. Sì, parlavamo prima di come il Brasile ha vissuto la vittoria ieri nel torneo di calcio al Maracanã come autentica liberazione. Assolutamente, è stata un'assoluta liberazione per il Brasile, che in un istante con quel calcio di rigore di Neymar ha scacciato via un po' dei fantasmi che alleggiano sul calcio brasiliano. Il torneo, come ben avete visto, non è stato certo di altissimo livello. Basti pensare che il cammino dei brasiliani è stato segnato dai pareggi con Sudafrica e Iraq e dalla vittoria in semifinale con l'Honduras per 6-0. Quindi di fatto solamente la finale è stata partita davvero sì di alto livello, ma quello che contava per i brasiliani era mettersi quest'oro al collo, per Neymar diventare effettivamente trascinatore almeno di questa piccola Seleção, che per il resto in realtà da quello che si è visto ieri sul campo, ragazzi, offre davvero poco. Intanto adesso sul campo entrano gli azzurri, più al Marzino e un piccolo antifa, sono i più dei circa 6.000 che al momento sono sugli spazi, pianto ancora pieno a metà, ma intanto l'accoglienza è di quelle che ci aspettavamo. Sì, e sicuramente l'effetto ambientale sarà qualcosa che inciderà sul risultato di questa partita, speriamo non favorendo eccessivamente il Brasile. No, un po' diverso da quello che stiamo vedendo a San Siro. Esatto, passare dal Maracanizinho da dove questa sei? Dove sei? Questa dove torsida... sei finito? Viene fuori Nicola. No, che devo dirti una cosa da serbo, serbo della partita, sì. È tutto. Dove sei? Nicola chi? Nicola vieni chi? Qua che ti faccio buco nella pancia. No, ma così Nicola chi? Sentirai un vuoto allo stomaco. Sì, ma Nicola chi? Nicola, Nicola, Nicola. che ti dico una bella cosa in serbo. Ah, Maksimović, da serbo a Maksimović. Serbo. Ah, sai che è andato via, no? Maksimović è scappato, è tornato a casa. Sì, insomma, voi lo state nascondendo. No, tu non gente, lo stiamo nascondendo. Tu gente, Capuano, voi nascondete Nicola. Sì. Dove sei, Nicola? Fuori di tavolo, viene fuori, dentro la regia di questa radio. Io quando qua se lo becco gli dirò: io sono Sinisce e con me non la passi liscia, ti metto azoto liquido nella mutanda, no, così sparisce sì. quel poco che c'è dentro. Sì, Sinisa, mancano due minuti, poi non so neanche cosa ci faccia qui Sinisa Mihajlović, che no, dovrebbe essere in panchina. Vieni fuori Nicola, però dici un buon pensiero per il Milan, insomma, anche se l'anno scorso è finita male, un bel pensiero per iniziare bene questo campionato, io, che non porti rancore con Berlusconi. Io non servo assolutamente rancore contro nessuno di Milan, questo non è rivista. Bene. Se io incontro uno di dirigente di Milan, no, dico ce ne sono un paio. Dirigente di sì. Milan, io gli dico con simpatia, amicizia, ti stacco le orecchie, no. Ma ti garantisco che non sentirei niente. No, questa è bruttissima. 800 24 00 24, pessima. Intanto sono ancora lì i nostri. Sono ancora lì i nostri, Luca Bredò in questo momento è quarto, staccato di 7 secondi. È lunga ancora, staccato di 7 secondi dalla zona podio. In testa c'è sempre lo svizzero Nino Schürten. È un po' indietro, Peter Sagan, che è uno dei protagonisti di questa mountain bike. Dove sei? Ci fermiamo per il GR delle 18. Ci fermiamo per il GR delle 18. 800 24 00 24. Torniamo subito dopo in diretta da Rio per raccontare la finale Italia-Brasile, finale per l'oro del volley, e poi vi racconteremo anche da San Siro Milan-Torino. Dove sei? Torniamo. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Pronto? Pronto, Filippo? Dove caspita stai? Fa caldo, mi stavo riposando. Riposando? Vieni subito a Radio 24 che devi fare i fuori posto. Più siamo e meglio è. Ah, dici? Filì, stai senza pensieri. Questo non è un consiglio, è un ordine, capito? Vabbè, Umberto, però non ti incazzare. Muoviti. Stupidezze. I fuori posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Convocati. Abbiamo rischiato, però abbiamo visto il meteo, lui se l'è sentita, ha fatto un gran lavoro, però mamma mia, comincio a avere troppi anni per vedere delle gare così. Bello, bravissimo a tutta la squadra. Questa volta finalmente si è andata bene, perché sinceramente i primi giri, quando ero P12, dicevo abbiamo sbagliato, ho sbagliato anche oggi, adesso è un disastro. Invece poi piano piano mi sono ringalluzzito, perché ero veloce, e poi la seconda parte della gara mi sono divertito. E oggi possiamo dire che abbiamo sbagliato, ma dai, quando finisce la gara tutto il mondo lo sa, no? Ma sì che ho preso morbida, perché pensavo che sarà una gara flag to flag, perché qua di solito arriva il secco molto, molto veloce, ma bene, dai. Beh, molta sfortuna, molta sfiga, perché oggi potevamo fare terzo sicuro e magari anche secondo, perché il ritmo, prima di rompere il pneumatico davanti, era il più veloce in pista. Riassunto di voci dal Gran Premio di Brno, Repubblica Ceca, vinto da Krajcelov alla prima vittoria in carriera, poi Valentino Rossi, Marc Márquez che resta leader, 197 punti, più 53 su Rossi, più 59 su Lorenzo, che oggi ha fatto un po' pasticciato, non è andato a punti. Non solo oggi, Giovanni. Sì, ma insomma, oggi particolarmente, con due rientri per cambio moto, uno almeno di troppo. 800 24 00 24. Mancano 8 minuti all'inizio della finale per loro tra Italia e Brasile, invece a San Siro sesto minuto 0-0 tra Milan e Torino. Roberto Ungaro, ciao Roberto. Ciao, un saluto ciao. A tutti. Ah, oggi ha fatto un po' casino, Lorenzo. Molto casino, ma è una gara molto strana, perché non era né bagnata né asciutta, pensavano appunto di fare il cambio moto. E quindi sono state due gare in una. Avete visto l'inizio, le Ducati sono andati avanti, tante Ducati, non solo le due ufficiali, bravissimi, finché le gomme hanno tenuto. Poi da dietro sono risaliti, Valentino era addirittura dodicesimo, è stata una gara un po' sorpresa, una grande incognita. Ne ha approfittato il bravissimo Calcrascio, perché ha azzeccato le gomme tutte e due dure, mentre gli altri avevano dura dietro e morbida davanti. Ma secondo me bisogna porre un attimo l'attenzione sulle gomme, perché è un grosso problema che le gomme si riducano così, perché quando Dovizioso si è fermato, che è stata la prima visaglia, ha ceduto l'anteriore, da lì poi tutti quanti hanno iniziato ad avere problemi. E secondo me non si è posta la giusta attenzione su questo problema Michelin. Cioè Michelin non può non avere una gomma adatta a quelle condizioni meteo. Ha una gomma troppo morbida oppure una gomma troppo dura e si ritrovano in quelle condizioni. Sì, abbiamo visto arrivare Iannone praticamente su cerchioni. Mi fate sentire, tra l'altro pericolosissimo. Iannone dopo la gara, sulle gomme. Ma Andrea, la sensazione qual è? È quella di andare per terra ogni curva? Qual è? No, la sensazione è quella di cagarsi addosso. perché Zam, sinceramente, io pensavo che la gomma scoppiava. E quindi, sai, non so perché, come ho fatto. Bravissimo, sei stato bravissimo. Questo era Iannone. Mi fate sentire l'inno al Mara Casanesigno? Questa è la nostra nazionale schierata, mancano 6 minuti a Italia-Brasile, mi sembra però, tornando alla MotoGP con Roberto Ungaro, che il senso di tutto il pomeriggio sia che il ragionier Marquez ha messo un altro mattoncino verso il mondiale. Sì, è chiaro, il ragionier Marquez, nonostante quello che abbiamo sentito dichiarare Roberto, dopo la gara possiamo dire abbiamo sbagliato, intanto Lorenzo affonda in maniera secondo me definitiva, perché non credo possa riprendersi da questa totale crisi. Rossi continua a combattere, il ragionier Marquez continua a costruire un mattone sull'altro la sua casa da titolo. Alla fine ragioniere, podio anche questa volta, porta a casa punti, Valentino passa secondo, supera Lorenzo, però 53 punti sono tanti, questo è il fatto. È tutta una gara strana, guardiamo quarto Loris Barth, e sì. Quinto Barberà, sesto Haverty, settimo il buono Petrucci. Cioè è stata una gara veramente di outsider. Comunque se fosse stata asciutta avremmo visto un'altra gara. Secondo me è quello che avevamo detto, però, che la Ducati c'è, non era un fuoco di paglia. Lo abbiamo visto fino al giro 12, 14, quello che era, perché comunque erano davanti e non solo i due ufficiali, c'era anche Barberà. Quindi questo vuol dire che la Ducati si è ritrovata. Qua c'è stato un problema che si chiama Michelin e questo non dipende dalla Ducati. Poi il campionato si decide sempre fra i soliti, tranne forse un Lorenzo che si è davvero smarrito. Sì, Lorenzo che ha 59 punti in questo momento da Marquez e soprattutto ha davvero perso il filo di questa stagione, e con lui credo anche la Yamaha, perché oggi nel doppio cambio moto forse non è stato l'unico a pasticciare. No, avete visto con Forcada come si sono presi addirittura. Sì, hanno litigato. Sì. Esatto. Ma poi secondo me il gesto brutto di Lorenzo è stato ritornare dentro, era doppiato e si è messo lì a combattere, a dar fastidio a Iannone e agli altri, solo per dimostrare che lui comunque con le gomme giuste avrebbe girato veloce, ma Lorenzo il sabato era velocissimo, tant'è che partiva dalla prima fila. Il suo problema si chiama acqua e le Michelin con l'acqua e va veramente in confusione, va giù di testa. Questo è un fattore che alla fine, quando si guarderà il campionato, conterà tantissimo. E sono degli sbagli che paghi. Valentino anche lui ha sbagliato, ma in modo diverso. Lorenzo non c'è più con la testa a questo punto. E si dice anche la Yamaha lo sta un po' abbandonando, perché ormai lui è proiettato per la Ducati. Il fatto che Forcada non lo seguirà nell'impresa Ducati, questo in lui un po' può averlo condizionato a livello di testa. Vedremo, ci vuole la prossima gara, però penso che Silverstone asciutta sia una rarità, staremo a vedere. Sarebbe bello, perché ad armi pari, asciutto, gomme che non hanno problemi, allora lì si vedono i veri valori in campo. Intanto buon per Crutchlow, perché è un pilota che si merita almeno una vittoria, speriamo non sia l'unica nella sua carriera. Beh sì, Roby, dopo l'81 con Barrichina ad Understop, torna a suonare l'inno britannico, qualche esatto. Annetto, dai. Del resto la scuola nostra, quella spagnola, è troppo forte, però è buono che anche un alternante che torni in inglese, poi una moto privata, ricordiamoci che la Honda di Traccio non è quella ufficiale, quindi questo è una buona cosa per la MotoGP, perché fa capire che anche gli outsider possono farcela. Hanno bisogno di variabili, che si chiamano pioggia, che si chiamano gomme, però io sottolineo, se scoppia una gomma 250 all'ora, sono problemi. Hai ragione. Guarda che se poteva, era una gara che poteva anche essere fermata, io in un certo punto l'ho anche pensato, perché ragazzi, una gomma dopo l'altra, questa defiance, non sei su quattro ruote, non sei in stabilità. No, ma non lì si può continuare a giocare alla roulette russa con queste gomme in situazioni ibride, Roberto. E sento dire che Michelin lavora bene, sì, però questi problemi ci sono, quindi non lavora benissimo al 100%, sono problemi che vanno risolti. Avete visto come sono arrivati alla fine? Erano le gomme, erano deciappate, si staccavano dei tasselli. Sì, l'immagine di Iannone a tre giri dalla fine è stata impressionante. Con quella gomma che esplode, perde pezzi, esplode nel senso che esplode la carcassa. Si è distaccato il battistrada. Si è staccato il battistrada. Poi perde pressione. Se la gomma perde pressione con grande velocità, è quasi come se scoppiasse. Cioè tu ti manca l'aderenza improvvisamente e ripeto, cadere a 250 all'ora, soprattutto con l'anteriore, poi sono problemi. Significa farsi male o come ha detto Iannone, credo con sintesi mirabile, cagarsi addosso. Grazie Roberto. Vabbè, ciao Roby. Alla prossima. 800 24 00 24 00. Intanto Milan Torino, con il Torino che sta facendo passare qualche preoccupazione ai tifosi pochi del Milan presenti a San Siro. Torniamo a Rio, Dario. Ragazzi, è il momento della presentazione delle squadre, il boato che sentite sottofondo accompagna e scandisce i nomi del sestetto brasiliano, mentre dall'altra parte del campo già schierati i sei azzurri con Gianelli regia, i centrali Buti e Birarelli, poi Zaria, Quanto Regna e Lanza pronti alla sfida che vale un oro, la sfida che vale la storia. Entra in questo istante il sestetto brasiliano nella presentazione Sergio, vecchia conoscenza del nostro campionato, insieme a Lucao, l'altro il centrale che gioca attualmente in Italia. Sergio, lo ricordiamo, l'unico reduce della finale del 2004 ad Atene, vittoriosa per i verde oro, ancora oggi in campo. Siamo vicinissimi all'inizio e il Maracanazinho scandisce questi ultimi secondi prima del via. Vediamo se ci sarà la battuta. È Birarelli che si avvicina al pallone, dovrebbe iniziare l'Italia in battuta. Eccolo qua il coro del Maracanazinho, manca davvero pochissimo a questo Italia-Brasile. C'è ancora qualche seggiolino vuoto, stranamente sì, vuoto. C'è qualcuno che ha preferito non presentarsi, chissà perché. Dario, ma abbiamo il bagno, Giovanni. Sì, adesso, il bagno, adesso arriva. Abbiamo il traffico, torniamo subito dopo il traffico. C'è anche Eugenio Corini che comincia a salutare. Grazie, mister, buonasera. Buonasera a voi. Con cui parliamo anche di che cosa è successo ieri. Intanto, Milan vicinissimo al vantaggio. Il traffico, torniamo. Rio, la Serie A, Milan-Torino. Però in questi casi veramente la linea fra essere un eroe o un patacca è molto molto sottile. Tutti convocati. Tutti convocati. Il campionato è lungo. Di scontato non c'è assolutamente niente, bisogna solamente giocare e vincere la partita, affrontare una partita per volta. La difficoltà di stasera ce n'erano tante, i ragazzi hanno fatto bene la fase difensiva che poi alla fine del campionato italiano è quella che conta di più. Dispiace per il gol preso. Lo credono tutti, però altrettanto tutti non vogliono arrendersi a questa analisi e dovremo lottare tutti forte, e sarà poi un piacere andarli a sfidare proprio perché sono forti. La nostra squadra è costruita non per le partite facili, è costruita per giocare partite difficili, e quella deve essere uno stimolo per noi. Questi Allegri Spalletti, 18esimo 0-0 San Siro tra Milan e Torino. Anche il Torino vicinissimo al vantaggio, con Ljajic, pallone che ha sfiorato il palo alla destra di Donnarumma. Tra qualche istante torniamo anche a Rio de Janeiro, dove ci sono i primi punti di Italia-Brasile. Saluto nuovamente Eugenio Corini. Buonasera Eugenio. Ciao mister. Buonasera a voi. Che sensazione hai ricavato ieri sera dalle prime di Juventus e Roma? due squadre che lotteranno, con la Juventus sicuramente favorita. La Roma nel primo tempo ha trovato un'Udinese molto ordinata, veniva comunque da partite giocate sempre in serata, dunque l'approccio del primo tempo è stato un po' difficoltoso, diciamo che da quando poi ha sbloccato la gara non c'è stata partita, mentre la Juventus l'ha messa in pericolo, ma con la zampata di un campione è andata a vincere una partita che nel complesso comunque meritava. Sì, anche a me è abbastanza impressionato la Juventus di ieri sera. È vero che la Fiorentina non è mai uscita di partita, però il primo tempo della Juve è stato sopra ritmo rispetto a quello che ci si può aspettare a inizio stagione. Comunque presto, comunque davvero presto per tutti. Il mercato deve ancora essere chiuso, quindi le squadre devono ancora essere completate. Io credo, Eugenio, che ci vorrà un mese prima di dare una valutazione compiuta. Queste giornate, poi la sosta per la nazionale, e poi vediamo come si riparte con gli organici al completo, completati dal mercato. È in dubbio, anche perché le grandi squadre sanno che queste due partite sono comunque fondamentali per partire bene, hanno tanti giocatori che stanno rientrando gli europei, dunque non hanno una condizione ottimale tra Coppa Europea, tra Coppa America. Il mercato, come dicevi tu, che è da definire magari con un colpo o due per squadra, che comunque può cambiare l'inerzia, il valore complessivo della rosa. Dunque, secondo me queste sono due partite che le grandi squadre vorranno vincere in tutti i modi, poi sanno che a livello sia di condizione che di completamento della rosa ci sarà ancora qualcosa da fare. Ma con l'occhio dell'allenatore, che ti è parso di Higuaín ieri sera? Ma sicuramente lo vedi che sta meglio, l'avevo già visto nella partita contro la Primavera, che cominciava a muoversi in maniera più fluida, è solo questione di tempo. Ovviamente dopo la Coppa America un'estate, diciamo, è vissuta con l'idea di essere sul mercato, l'ha portato ad arrivare non in una condizione ottimale, ma devo dire che già ieri stava molto bene, e poi quell'istinto lì ce l'avrà anche a 60 anni. Un po' di sovrappeso l'ha perso, un po' di sovrappeso. Chi non l'ha perso? Dai, c'è chi diceva maliziosamente ieri semplicemente gli hanno messo la maglietta più larga per evitare l'effetto visivo della addominale. Qualche chilo l'ha perso, ma d'altra parte stiamo parlando di professionismo allo stato puro, quindi è chiaro anche che far dimagrire un giocatore non richiede nemmeno poi tanto tempo, tanto lavoro, semplicemente è una questione di allenamento e alimentazione. Eugenio, qual è il profilo del centrocampista che vedresti per la Juventus? Mi incuriosisce molto il fatto di vedere giocare Pjanic davanti alla difesa, perché è veramente un costruttore di gioco, non ha mai giocato in quella posizione, anche se è sempre stato un intermedio a cui piaceva venire a giocare dal basso e costruire, e al calcio in testa Pjanic. Dunque, secondo me andranno su un interno di centrocampo che può essere una mezzala, perché l'idea, secondo me, che andranno a sviluppare durante l'anno sarà spesso quella di giocare a quattro, e con un rombo o tre centrocampisti più due trequartisti a supporto di Higuaín. Di conseguenza mi aspetto questo tipo di centrocampista. Intanto 0-0 sempre a San Siro tra Milan e Torino, partita equilibrata, ma mi pare Milan che sta ballando parecchio dietro quando il Toro attacca. Andiamo a Rio de Janeiro, 30 secondi dal nostro Dario Ricci, Italia-Brasile. 7-6 per gli azzurri in questo primo set, la battuta di Giannelli, seguiamo questa azione d'attacco degli azzurri, la ricezione di Wallace, palleggia Sergio proprio ancora per Wallace, il muro di Birarelli, 8-6, buon inizio degli azzurri, mani girate da entrambi le parti della rete, Giovanni, perché l'emozione si sente, ma buono l'inizio di Zajec anche al servizio, e poi adesso arriva questo bel muro di Birarelli per l'8-6 azzurro. 8-6 dunque per l'Italia, l'emozione si sente e si vede, ci sono i volti di alcuni azzurri, non solo, anche Zaitzer, alcuni brasiliani che sono colore, sì, Zaitzer che è veramente bianco come un foglio, anche se è partito bene in battuta, anche se ha tirato un paio di palloni da Zaitzer, però l'ufficio facce dice che la tensione è tantissima da tutte e due le parti. Tanto altra grande copertura e difesa, 9-6 per l'Italia. Torniamo sul campionato invece, intanto gioco fermo a San Siro, 0-0 tra Milan e Torino, c'è un giocatore del Torino a terra, abbastanza bianco anche il volto di Montella. Si gioca tanto, Eugenio Corini, Montella, l'abbiamo sentito ieri dire puntiamo l'Europa League, ha avuto un'estate un po' particolare, diciamo la verità, non ha avuto molto dal mercato. Io sono convinto che lui sia intelligente e sappia che qualunque cosa sia successa quest'estate deve fare risultato subito, perché il tempo a Milano non te lo concedono nemmeno in una situazione ambientale come questa. Un segnale il Milan lo deve dare quest'anno di tornare competitivo, appunto, almeno raggiungendo un posto in Europa. È un momento sicuramente di grande cambiamento e non è mai facile lavorare in questo tipo di situazioni, ma il valore comunque della rosa del Milan secondo me consente al Milan di poter sperare appunto in un accesso d'Europa, anche perché Vincenzo è un allenatore molto bravo, molto preparato e secondo me farà un ottimo campionato. Ma quanto vale questo Milan? Quarto, quinto, sesto posto, settimo? È difficile dirlo, anche se oggettivamente vedo, a parte Juventus, Roma, Napoli e Inter, sicuramente a livello di rosa più competitive, però il bello del calcio è che a volte le cose possono cambiare, il valore complessivo di una squadra si può sviluppare durante l'arco di 38 gare, può succedere di tutto. Sicuramente il Milan parte dietro queste quattro grandi squadre che abbiamo appena detto adesso. Senti, un po' più giudicabile rispetto alle altre è la Roma, perché ovviamente ha subito le due partite decisive del preliminare di Champions, l'1-1 a Oporto, l'ha ben indirizzata. A me piace l'atteggiamento di questa Roma, Eugenio. Ma Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, se vai a vedere il percorso che hanno fatto l'anno scorso è arrivato in una situazione oggettivamente delicata. Da quando la squadra ha cominciato a star bene fisicamente, sia a livello di mentalità, hanno fatto un percorso straordinario, solo la Juventus straordinaria non ha permesso alla Roma di essere competitiva sino in fondo. E per me la partita di ieri e il pari di Oporto certificano il valore di questa squadra, che ha dei margini secondo me straordinari di crescita, ed è Spalletti un maestro veramente di calcio e sta facendo un lavoro straordinario, e secondo me la Roma sarà molto molto competitiva quest'anno. Sì, ha anche due giocatori, due tipologie di giocatori che in pochi hanno, cioè quelli che strappano la partita. Ieri abbiamo visto Perotti, l'altro è Salah, che sono giocatori capaci di creare superiorità e di rompere in due le partite. Grazie Eugenio Corini. Ciao Eugenio. Grazie a voi. Ciao. A presto, salve. Grazie, buone partite, perché stiamo seguendo Milan-Torino 25esimo 0-0, partita abbastanza divertente, che insomma con diverse situazioni. Mi piace molto il Torino, Giovanni, mi piace molto perché comunque è una squadra che scopriremo strada facendo, che scopriremo vivendo ovviamente, però è una squadra giovane con molto talento, con secondo me l'allenatore giusto al posto giusto. Il Milan insomma credo che almeno in queste prime giornate per il Milan sarà più facile giocare in trasferta che non giocare in casa, perché la situazione ambientale, la tensione, le contestazioni, l'aria di San Siro credo sia difficilmente respirabile in questo momento per il Milan, anche se non ha gente avuto... vedi di respirare di meno. Ma cosa? Nicola, dove avete messo Nicola? Che bisogna fare la sostituzione. Intanto ha ammonito Martinez del Torino. Dovrebbe essere in panchina Mialovic. Toro che sta facendo una bella partita. Voi avete. Allora se io trovo a Nicola. Io li spacco in testa la balalaica, no. Devono fare raccolta differenziata dopo. No, ma non c'è qui Nicola Maximovic. Torniamo a Rio invece, Dario Ricci. 12-11 per l'Italia in questo primo parziale. I brasiliani sono rientrati puntando in ricezione sull'Anza, che ha commesso un errore sul servizio di Lucarelli. Poi Zaitsev ci ha aiutato a recuperare, ma poi a sua volta ha sbagliato la battuta e ora torna in attacco, salva Bruno in ricezione, contrattacco con Wallace, la deviazione del muro, Colassi non ci arriva, è 12 pari in questo primo set, riagganna. C'è qualche problema, abbiamo perso il collegamento. Ma si sgancia la linea. Riaggancia sì, l'Italia. Si è sganciata nel caos del maracanesino. E vabbè, insomma, comunque va bene così. 12 pari mi sembra anche un'ottima Italia, quella che è entrata in campo. Ha condotto fino ad ora. Questo è, se non sbaglio, il primo pareggio brasiliano. Se no, siamo sempre stati davanti fin dall'inizio. Bisogna rimanere estremamente calmi e lucidi, secondo me, nella enorme tensione di una finale olimpica, anche perché i nostri sono tesi, ma non è che i brasiliani lo siano di meno. Non è che insomma giocare in casa ti porti poche ossessioni da questo punto di vista. Adesso c'è un muro fuori dell'Italia con il Brasile che passa per la prima volta a condurre, ma sarà importante continuare a giocare banale, però continuare sì, a giocare, bisogna un pallone continuare a giocare sull'altro. Così un pallone per volta senza farsi impressionare. Torniamo a Rio da Dario Ricci. Questo è il primo vantaggio del Brasile. 13, 13 a 12 c'è stato il muro e fuori di Lipe, bisogna mantenere la calma come ben ricordate, l'ha già sentito anche Blengini che chiama in questo momento un time out provvidenziale, importante non accendere la torcida contro un Brasile tutt'altro che perfetto fino ad ora, che è riuscito a rientrare per alcune estemporanee, come ricordavamo l'ace di Lucarelli, la decisione sbagliata di Lanza. Ma è un'Italia che c'è assolutamente, assolutamente in partita, sono in partita Zaitsev e Guarena che si fanno carico dell'attacco, quello che finora forse è un pochino è stato Lanza con le mani un po' più fredde che forse sta pagando questa emozione iniziale. Sì, sta ma è ancora lunghissima Dario, siamo solo all'alba di questa finale, ci dobbiamo fermare per un minuto, intanto c'è un cambio a San Siro, nel Torino fuori gli Aic che ha qualche problema fisico e è stato costretto ad uscire al suo posto Boyer, e dunque Toro che ha dovuto cambiare uno degli uomini del suo tridente, 0-0 quando siamo al 29esimo minuto, 13-12 Brasile nel primo set della finale di Rio, torniamo subito. Basta vedere la Juve vincendo questo scudetto, io non te la faccio più. Tutti convocati. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Tutti convocati. Palla dentro, splendida, Khedira! Deviazione, Gonzalo! Tante volte da avversario qui, entrare da padrone di casa, come ti sei sentito in questo stadio? Felice, l'ho detto, sempre mi hanno fatto sentire l'affetto dal primo momento e speriamo, come ho detto, ritornare questo affetto con gol e vittorie e titoli, no? Io sempre che gioco provo a fare il migliore possibile per aiutare le squadre e per fortuna oggi ho potuto fare il gol. Questo Higuaín, nel riassunto di ieri. Hanno parlato tanto del mio stato di forma, io sto felice di quella partita che abbiamo fatto, era importante vincere, ogni giorno mi sento meglio, una nuova squadra, abituarmi a un nuovo compagno, a una nuova tattica, ma per fortuna mi sento bene e speriamo ancora a migliorare. Diciamo che Gonzalo non è che si scopre stasera, la sua arte è quella di far gol. Stasera è stato molto bravo perché non era semplice, ma direi che c'è stato un bello sviluppo d'azione tra Samoa con l'inserimento alla mezzala opposta. Questo è il riassunto sonoro della serata di Gonzalo Higuaín di ieri. Intanto non sta andando benissimo, momento di difficoltà Rio de Janeiro, 30 secondi, Dario Ricci. 16 a 13 per il Brasile che ha piazzato un parziale di 4-0 grazie a un muro su Zaitsev e alla letale battuta di Sousa, ma vi segnalo un gesto molto bello del nostro regista Gianelli che ha indicato alla squadra: sorridete, sciogliete questa tensione, cerchiamo di rimanere in partita anche col sorriso. È arrivata subito la risposta di Buti per il 16 a 13 e adesso piazza il 16 a 14, vediamo se riusciamo a vincerla col sorriso. 16 a 14, torniamo tra pochi istanti. Gianelli anni 20, ti ricordo, Giovanni Capuano. Gianelli che, anni fa, 20. Che dice ai compagni di sorridere, anni 20, insomma è la forza di questa nazionale. Boris Sollazzo, ciao Boris. Ciao Boris. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Giovanni. Uno su uno, E il Pipita. No, per questo dopo 9 minuti vogliamo farci del male, dai. Insomma, diciamo che ha migliorato la media gol che aveva col Napoli. Quindi, insomma, se vogliamo dirle tutte, diciamole tutte. Ma quanto ci aveva messo col Napoli a segnare il primo gol? Credo un po', perché se non ricordo male, le prime 3-4 partite non segnò, quindi non andò benissimo nei primi due campionati, perché segnò 18 e 17 gol. l'unico campionato in cui insomma ha battuto biglietto ogni volta è stato l'ultimo, insomma, quindi se non sbaglio 4-5 partite ci mise. Senti, ma che effetto ha fatto da tifoso del Napoli ieri sera a vederlo entrare, osannato dalla gente di Torino, ricambiare e poi deciderla? Ma guarda, l'effetto sarei bugiardo, sarei ipocrita se non dicessi che non ha tanto fatto effetto il gol, perché a quello siamo abituati, non è che avessimo dubbi che avrebbe segnato. L'esultanza tale e quale a quella che aveva a Napoli, quella fa un po' d'effetto, ma insomma lì si tratta un po' di ipocrisia, no? Cioè, c'è chi come Ibrahimovic dice che la maglia che indossa è sempre la maglia del cuore, e c'è chi come lui magari canta "Difendo la città" e poi va a Torino e insomma fa esattamente lo stesso. Però adesso un giocatore della Juventus, rilevo forse la sudditanza psicologica degli juventini, che nonostante abbiano vinto 5 scudetti, quando andiamo a perdere allo Stadium cantano "Vita mia", e quando segna Higuain non hanno nemmeno un coro loro, e quindi devono prendere in prestito i nostri. Quello mi dispiace, se vogliono gliene insegno qualcun altro, insomma, anche più divertente. Dai, ma di esempi di mignottismo calcistico sono pieni i libri e perfino gli album delle figurine, dai. Ma Carlo, tu lo sai che io sono un romantico, quindi capito, se qualcuno mi viene a battere il cuore sotto la curva ci credo fino a prova contraria, insomma. Per fortuna ce n'è rimasto uno, che è Hamsik, che non è così ipocrita. Però ripeto, adesso è un giocatore della Juventus e va trattato come un giocatore della Juventus, alla stessa identica maniera. Se il Napoli vuole maturare deve anche cominciare a staccarsi da questa sudditanza, sì, al contrario. D'accordo, perché... sono d'accordo, se il Napoli, cioè, non puoi chiedere, credere comunque fino in fondo a questo che viene a battersi il petto sotto la curva, che canta le canzoni. Bisogna... popolo di cuore, Carlo. Ho capito, ma bisogna però per vincere bisogna anche emanciparsi da queste suggestioni. La Juventus ha visto partire Pogba senza battere ciglio. L'unico errore che, ma pure Zidane, sempre, questo è proprio un altro modo di vedere il calcio, devo dire che l'unica preoccupazione che io ho adesso è non perdere 1-0 a Pescara con autorete di Milik, perché a quello proprio non potrei reggere, ecco. Sì. Poi su Higuain ricordo sempre che Dzeko nella seconda partita contro la Juventus segnò un gol, sembrava essere arrivato un campione, e poi, quindi insomma, bisogna sempre vedere alla fine delle 38 partite, non dopo la prima. Cosa ti aspetti oggi dal Napoli? Ma io mi aspetto che giochi con il sorriso, a proposito di quello che si diceva con Ricci prima, e che giochi come ha fatto in questo calcio d'agosto, che vale quello che vale, però ha dimostrato che addirittura la rotondità del gioco di Sarri senza Higuain ne guadagna, perché chiaramente Higuain era una splendida irregolarità che rompeva l'armonia del gioco di Sarri e la rompeva con colpi di classe. Adesso hai dei giocatori, tutti e 11, che giocano lo stesso tipo di gioco, che giocano un gioco arioso, che segnano gol a grappoli, e mi auguro che non sentano la pressione di una Roma che ha vinto 4-0, di una Juventus che è andata a vincere col gol di Higuain. Cioè che non abbiano l'angoscia di dimostrare che sono all'altezza. Il Napoli quest'anno deve fare quello che ha fatto l'anno scorso, cioè fare una sorta di cronoscalata, giocare col suo ritmo, giocare come se fosse solo in campionato e poi vedere quanti punti ha fatto alla fine. Quindi mi auguro che giochino con serenità, senza voler dimostrare niente a nessuno, che facciano il loro gioco, perché sono ancora convinto che questa sia la seconda o la terza forza del campionato. Sì, sì, anche se non è facile pensare di avere poche pressioni, non dico zero, ma poche pressioni per una squadra che l'anno scorso è arrivata. Beh, ma Giovanni, ma deve anche dimostrare di essere una squadra matura, e da lì deve ripartire. Sì, cioè, però da lì deve ripartire. Io credo che sia una squadra matura. Se posso dire la mia, poi sentiremo anche Sarri. Mi sembra che non tutti i segnali da Napoli siano questi. Noi, ad esempio, sentiremo parole di Sarri fatte in conferenza stampa senza contraddittorio, quindi le prendiamo per quello che possono valere, lo diciamo tranquillamente. Io non so, Boris, che opinione hai tu su questa decisione del Napoli di chiamare solo le testate gradite a parlare con Sarri? Giovanni, che gli accrediti siano dati dall'ufficio stampa o dal direttore della comunicazione, a seconda, questo vale anche per noi quando andiamo a vedere una partita, ce li rifiutano o ce li accettano. Poi il Napoli ha voluto mettere questa dicitura degli inviti, che ovviamente sembra un po' erdoganiana, però la verità è che non cambia nulla, nel senso che anche prima venivano rifiutati questo, gli accrediti. Questo, Boris, non è vero e tu lo sai. Io ieri potevo andare alle conferenze stampa di 19 squadre su 20 della Serie A. in una dovevo essere invitato. Bastava presentarsi. Io sono andato a conferenze stampa anche quando non ero nessuno a inizio carriera. Intanto ho segnato il Milan, Bacca, 39esimo minuto, un bel gol in tuffo di testa su cross da di Abate. Destra di Abate. Quindi Milan 1, Torino 0. Ma io penso, e lo penso da diversi mesi, Boris, che questo sia uno delle passaggi che il Napoli dovrà fare. Io aspetto ancora di capire quali erano i poteri forti ad aprile, quando qualcuno disse che Higuaín se ne sarebbe andato perché non voleva rinnovare, e ho scoperto dopo che aveva ragione quel qualcuno, non De Laurentiis. Ma lo diceva Nicolas Higuaín, però, che c'erano dei poteri forti, poi ha cambiato idea riguardo a questa cosa. Francamente io non credo che ad aprile ci fosse questa certezza. Diciamo che l'atto di forza che ha fatto la Juventus, secondo me, è arrivato dopo che ha visto che non c'erano altri giocatori da prendere. Giustamente loro vogliono vincere la Champions League, hanno preso il giocatore più forte, l'hanno preso con una operazione, comunque, continuo a ripetere, anche se ne facesse 37 di gol, totalmente antieconomica, perché una cosa è prendere a 72 milioni che diventano 105 con la commissione di Raio la Pogba, che ha 23 anni, un'altra è prendere a 90 milioni un giocatore di 29 anni. Cioè, se io devo vederla non da tifoso del Napoli, su questo credo non ci siano discussioni. Cioè, il Napoli vende bene alla fine Higuaín, un'ottima operazione in uscita. Resta tutto quello che si è costruito intorno a questa vicenda. Sì, quando ci sono di mezzo le clausole, secondo me lì è stato molto ingenuo il Napoli a continuare a credere a Nicolas Higuaín, che diceva che si sarebbero visti per il rinnovo, quando probabilmente il giocatore già cercava di sfruttare questa clausola. Quando ci sono le clausole bisognerebbe essere molto più prudenti, bisognerebbe essere molto più attenti. Sempre questo anche addirittura ancora Di Maro, Nicola Lombardo parlava della possibilità che Higuaín andasse alla Juventus come di un qualcosa di lontanissimo, e non lo puoi dire. Cioè, voglio dire, se c'è un prezzo fissato e ci può essere il riscatto, può accadere fino al 31 d'agosto, quindi è una ingenuità comunicativa. E se mi vuoi dire questo, sì, sono d'accordo, il Napoli è pieno di ingenuità comunicative in questo momento, non da poco. Dall'altra parte, secondo me, bisogna essere da uomini di comunicazione onesti e dire che nei confronti del Napoli non c'è una comunicazione onesta intellettualmente, c'è una costante pressione che verso altre squadre io non vedo, ma penso anche alla Roma in questo senso, cioè rispetto alle squadre del Nord. Perché? Io credo Boris, perché, che se ieri ci fosse stato contraddittorio, ad esempio quando Sarri ha parlato della Juve che contattava Higuaín e parlava di Higuaín sotto contratto col Napoli, qualcuno avrebbe chiesto a Sarri dell'atteggiamento ad esempio del Napoli su Icardi e Maximovic, giusto per dare un paio di nomi. Ma io non vedo, con tutto l'affetto che ho per Boris Sollazzo, non vedo una persecuzione nei confronti del Napoli. Cioè, non mi sembra che ci sia. Forse il Napoli cerca dall'interno, cerca i suoi nemici all'esterno, proprio in questo modo, blindando le conferenze stampa, eccetera. Ma non noto questa corrente di pensiero contro il Napoli, Boris. Basti leggere i giornali per vedere che verso certe squadre c'è un atteggiamento molto meno, accondiscendente. Ma penso per esempio ai tanti no che il Napoli avrebbe ricevuto, ne ha ricevuti tanti anche la Juventus, e non sono stati così enfatizzati. Ma mi interessa poco, si gioca sul calcio, non ci si gioca sul campo e non si gioca sulle carte ai giornali. Riguardo a Giovanni e quello che diceva riguardo le conferenze stampa, però allora stiamo dicendo che ci sono tesserini da giornalista professionista di Serie A e tesserini da giornalista professionista di Serie B, perché erano colleghi quelli che stavano dentro la conferenza stampa, quindi è loro responsabilità personale non aver fatto delle domande che potevano andare più in là. Dico solo che quando una conferenza stampa è a invito, evidentemente c'è una scelta, c'è qualcuno gradito, qualcuno no, e chi è gradito probabilmente non garantisce un contraddittorio pieno. Boris, però se vuoi andiamo avanti, devo solo andare a Rio perché sta per finire il primo set. Abbiamo qualche problema di connessione con il nostro Dario Ricci, proviamo a fare questo collegamento. Dario. Sì, speriamo non finisca perché siamo 24-22 per il Brasile in battuta Zaitsev. Abbiamo provato a rientrare in tutti i modi in questo set. Proviamo con la battuta di Zaitsev, sbagliata, e finisce invece il set. Brasile avanti 1-0, 25-22, peccato perché i brasiliani hanno sfruttato soprattutto i nostri punti deboli, un lancia che non è entrato pienamente in partita e ha sofferto molto sia in attacco che in ricezione. Meglio è andato quando Blengini ha chiamato Rossini in campo al suo posto, ma la sensazione è che ci possa essere una partita e che questa Italia ci sia. Però vantaggio del Brasile, un set a zero per i Verde Oro, 25-22 il primo parziale. Grazie Dario, torniamo tra poco. A inizio secondo set a Rio però c'è partita, a differenza di quanto accaduto nel 2004, ci sono valori che sono più vicini oggi a Rio de Janeiro tra Italia e Brasile. Boris, avremo tempo per parlarne, abbiamo tutto un inverno a disposizione. Intanto si comincia da... Tanto stasera vediamo il Napoli a Pescara. Da Pescara e dalla necessità di scongiurare gli incubi di Sollazzo, cioè Pescara che vince 1-0 con autogol. Io ho scritto il 3 agosto che il Napoli non si è necessariamente indebolito perdendo Higuain. Boris, sono d'accordo anch'io su questo. Sì. Deve solo crederci, questa è la cosa più importante, cioè non deve... perdere la fiducia con se stesso. In questo senso le dichiarazioni che hanno fatto Jorginho e Allan, che sono il cuore del centrocampo, mi rassicurano, cioè c'è una voglia di dimostrare che il Napoli è una squadra indipendentemente dalle sue individualità. E credo non servisse nemmeno Icardi, cioè il colpo da 60-70 milioni davanti. Se Milik è il giocatore che promette di essere, un giocatore da 15 gol, 16 gol, 18 gol, il Napoli ha tutto per restare in alto. Grazie Boris. Ciao Boris, a presto. Grazie a Boris Sollazzo, 800-24-0024. Siamo nel finale del primo tempo di Milan-Torino, 1-0, gol di Bacca di testa in tuffo su cross di Abate al 38esimo. Bacca che ha segnato in tutte le ultime 4 partite di campionato giocate e ha fatto gol al primo tiro in porta di questa stagione. Bacca è un attaccante da questo punto di vista fenomenale. Sul mercato. Però sul mercato, almeno fino a qualche settimana fa. Traffico, torniamo subito. Ci siamo incasinati e ho sbagliato, mi sono trovato nel traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Io faccio un appello a te. Sei il re del mercato, toglimelo dal mercato. In questo rapporto c'è il calciatore, c'è l'allenatore, c'è il procuratore che vuole che il calciatore giochi probabilmente con continuità. Ci sono tutte, c'è tutto quello spicciolame dietro che tu conosci bene, sì. E che però sono voci, capito? Ma io ho sempre detto allo stesso modo: se voi me lo mettete sul mercato, io lo vorrei togliere, però. Meraviglioso Spalletti ieri che chiedeva Di Marzio di togliere Paredes dal mercato. Soggetto Paredes, appunto. Oh, Paredes che è stato anche nel mirino del Milan, lo ha ammesso Gagliani prima dell'inizio di questo Milan-Torino. Siamo nei minuti di recupero, 1-0 per il Milan, gol di Bacca al 38esimo. Primo tempo finito in questo momento. Ha detto Gagliani, abbiamo chiesto Paredes alla Roma, ma Sabatini ci ha detto che non si muove perché c'era il veto di Spalletti, così come c'è il veto di Zidane sulla partenza di Kovacic, che è un altro dei nomi caldi del mercato del Milan. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Sì, buona domenica a tutti. Tanto... Anche a Gagliani, se voleva Paredes si dice che non gliel'hanno dato, dipende da quanto offriva comunque. Sì, ma Spalletti non lo vuole cedere, hai sentito? Toglietemelo dal mercato. Lui fa l'allenatore, giustamente questo è l'anno suo, sta comandando Spalletti, avrete notato che prende soprattutto giocatori esperti, non più ragazzini. I ragazzini se li fila poco e lui ritiene, e forse ha ragione, non lo so, poi dopo staremo a vedere, che questo possa essere l'anno buono per la Roma. Dico l'anno buono per tutto, non dico per lo scudetto, perché c'è sempre la Juventus, c'è il Napoli, ce ne sono tante, però un anno estremamente positivo. Ricordiamo che lui ha il contratto solo per quest'anno si gioca molto e ritiene di avere tutto per giocarsela fino in fondo. Sì, ma questa cosa dei giocatori giovani, diciamo la verità, ne abbiamo parlato per un'estate anche parlando di Mancini, delle sue richieste, dell'Inter, anche De Boer ieri ha detto João Mario o Sissoko, io ne voglio uno lì in mezzo e vorrei tenere anche tutti gli altri, perché poi quando tu alleni l'Inter, la Roma, il Milan, la Juventus, il Napoli, va bene qualunque discorso di prospettiva, di progetto, di giovani, cioè, la verità è che devi capitalizzare subito. Certo. Mandami i giocatori, certo. Per i giocatori io intendo i 27enni, no? Che sappiamo che per esempio per un centrocampista l'età migliore è 27 anni, ma comunque calciatori di esperienza, di personalità, ma su questo non c'è dubbio. Ma guarda come è costruita la Juventus, Roberto. La Juventus mixa anche sul mercato giocatori di grande talento, mi viene in mente Piazza, ma lo stesso Pjanic, e di freschi come anagrafe, e giocatori pronti per vincere subito. Ma secondo me è così che si costruiscono le grandi squadre. Ma non c'è dubbio, poi c'è un altro metodo, quello di partire dalla difesa, cioè il portiere, no? E i difensori, e poi il regista, e poi il centravanti. E la Juventus, c'è poco da fare, ci dà lezioni su tutto, cioè, tutte cose che noi diciamo, no? Che le diciamo da anni, ma in realtà nel calcio italiano non fa nessuno. La Juventus lo fa da 5 anni. E qualcosa vuol dire, ovviamente, se lo può permettere, perché continua a vincere, perché incassa, perché aumenta il fatturato, però sbagliano pochissimo. Sì, sì. Loro, ogni volta portiamo loro come esempio. Sì, sì, ma è così, è così. Beh, è chiaro che non è difficile fare mercato quando hai le saccocce piene di denaro, come ha la Juventus, perché se riguadagna con la Champions League, se riguadagna con lo stadio, insomma, è inutile star lì a rifare tutta la tiritera, però è chiaro che loro sono bravi e sono ricchi, dunque questo è il punto. Spero che Spalletti non cada, ne abbiamo parlato anche diverse volte in settimana, non cada nel trappolone del doppio portiere, posso dire. No, io penso che alla fine giocherà il polacco, perché è l'unica partita che ha giocato Alisson e non ci ha fatto impazzire, per esempio sembra che non esca. È dotato di grandi mezzi fisici come molti brasiliani, molti portieri brasiliani, però la scuola mi sembra che ancora non ci sia. Magari adesso nella Roma c'è un ottimo preparatore che è Savorani, un anno con Savorani potrebbe stargli bene, tanto più che magari quello che a Roma chiamiamo coso o il polacco, il codice fiscale, Cesny. Il prossimo anno sì, ma a Roma abbiamo risolto il problema in altra maniera. Il codice fiscale è molto carino, e ne dico, il prossimo anno tornerà all'Arsenal molto probabilmente, a meno che la Roma non decida poi di comprarlo. Però può comprare un altro portiere dopo che già hai comprato il portiere della nazionale brasiliana? I portieri ce ne vuole uno. Io sono rimasto a Zenga Tacconi. Zenga Tacconi. È quella. Peruzzi faceva il secondo a Buffon. Cioè, grandissimi portieri fanno il secondo. Intanto è iniziata la finale per il bronzo nella lotta libera, categoria 65 kg, il nostro Chamizzo contro lo statunitense Frank Molinaro, che di statunitense ha poco, sentendo il cognome. Siamo ancora 0-0. Andiamo un attimo invece a Rio dal nostro Dario Ricci per la pallavolo. Dario. Secondo set 5-4 avanti gli azzurri, 6-4 in questo istante perché Lipe sbaglia un servizio. Siamo avanti grazie agli attacchi di Guantoregna, due schiacciate vincenti e poi anche... E poi c'è stato anche l'errore in battuta dei brasiliani, 6-4 per noi in questo avvio di secondo set. Stai vedendo il Milan, Roberto? Sì, sto guardando il Milan. Che impressione ti ha fatto? Ma non eccezionale, ma un po' meglio del Torino, se non altro. Perché comunque c'ha un giocatore che si chiama Bacca, perché anche Abate per esempio oggi non mi dispiace per niente, va sul fondo, crossa, il cross per Bacca è stato bellissimo. Però quando tu parti con Bacca, di solito parti anche con l'1-0. Questo è un grosso vantaggio. Il paradosso che il Milan mercato, ha questo giocatore qui che tecnicamente è sul mercato. È sul mercato. È incredibile, perché io lo comprerei in qualunque squadra mia. Cioè, stai a Real Madrid, chi vuoi? Lo vuoi Bacca? Porca miseria, dammelo subito di corsa. Cioè, ma chi è che non vorrebbe uno che ti fa sempre gol? Perché i centravanti che cosa devono fare? È vero che adesso ci inventiamo che devono venire incontro, eccetera. Io invece gli direi risparmiati e fammi gol, faccio correre gli altri. Rimesso sempre dell'idea di Platini, no? Che c'aveva, dice Bonini, che correva per lui, oppure di Rivera che aveva Lodetti che correva per lui. E poi ci sono quelli che servono ad altro nella vita, e questo fa gol. No, ma poi togli Bacca al Milan, chi fa i gol e chi gioca là davanti? Cioè, Padula in teoria, ma Bacca è un giocatore già consacrato a livello europeo. La Padula, chapeau per quello che ha fatto l'anno scorso, però vediamolo. Sai che guardando prima il Milan mi è venuto in mente il Genoa, ma quanti sono quelli del Genoa che vengono da Genoa? Alcuni. Antonelli, Kučka, Suso, Niang. Ma del resto l'abbiamo letto quest'estate anche con interesse, gli intrecci sull'asse Milano-Genova, Milan e Genova, ma anche Inter, per un certo periodo c'è stato soprattutto anche Roma, a cavallo del triplete. Ci sono stati degli scambi parecchio fruttuosi per le casse di Preziosi. C'è chi ha scritto che il bilancio del Genova l'aveva fatto negli ultimi anni a turno il Milan, la Roma e l'ha fatto l'Inter. Intanto ci stanno facendo rivedere, ci sarà anche da discutere un po' sulla moviola di Milan-Torino. C'è una trattenuta di Paletta in mezzo all'area di rigore su cui si potrebbe ampiamente discutere, credo si fosse sullo 0-0. L'ha preso pieno. Diciamo tradotto tutto, probabilmente era calcio di rigore. Ce lo siamo persi in diretta. Abbraccione assoluto. Sì, Toro che secondo me ha perso parecchio perdendo gli Aic per infortunio. Poverino, hai visto che piangeva? Si è messo la maglietta sopra il volto per coprirsi. Ginocchio sinistro. Io spero bene. Devo dire che aveva cominciato benissimo, tra l'altro. Aveva dato la sensazione di essere quello di qualità in un Torino in cui mi sembra che la qualità, almeno in questa squadra, in questo momento non ci sia. Perché se già togli i Baselli a centrocampo, no, magari hai dei centrocampisti abbastanza banali. E lui era quel qualcosa in più. Che peccato, mi dispiace moltissimo. Perché lui all'inizio della stagione parte sempre bene, guardate la sua storia, parte sempre bene, poi sparisce, poi riprende verso la fine. E non lo so qual è il motivo. Lui ha anche bisogno, Robert, lui ha anche bisogno di fiducia, esatto, ha bisogno di giocare con continuità, di respirare comunque questa fiducia e di respirare il campo senza avere l'angoscia tutte le volte, gioco o non gioco, gioco un tempo e gioco, faccio la staffetta. Una volta ho chiesto una notizia su di lui, no? Sul suo carattere, un direttore sportivo che ce l'aveva avuto, dico ma com'è? E lui mi ha detto è un bambino, e quindi come tutti i bambini tu dagli la caramella, no? Ogni tanto lo schiaffetto, ma soprattutto le caramelle, e poi lo fai crescere. E così, a me sembra che sia rimasto così, però tecnicamente bravo. Sì, tecnicamente uno che ha un passo in più. Grazie Roberto. Ciao Roberto. Grazie a voi, ciao. Buona domenica. Grazie Roberto Regga. 30 secondi Rio de Janeiro, Dario Ricci. Ancora avanti gli azzurri, 9-8 in questo secondo set. In tribuna c'è anche il nuovo re del calcio brasiliano, Neymar, fresco di medaglia d'oro, vinta ieri qui vicino al Maracanã. E Gianelli intanto organizza l'attacco, Zaitsev, il muro di Wallace su Zaitsev, siamo 9 pari, abbiamo bruciato il piccolo capitale, i due punti di vantaggio che avevamo accumulato fino ad ora, il muro di Wallace su Zaitsev. E niente da fare, 9 pari allora qui nel secondo set, quando è Souza, che già nelle precedenti rotazioni ci ha fatto parecchio male, che va alla battuta. 9 pari nel secondo set, però siamo lì, siamo in partita. Fa fatica a passare Zaitsev e Quantorena. Sì, lo Zara non ha ancora cominciato a mettere giù punti. C'è il GR del 19, torniamo fino alle 20 per raccontarvi Milan-Torino, la vigilia di questa serata di domenica della Serie A e poi il secondo set, e speriamo tanto di più, d'Italia-Brasile da Rio de Janeiro. Tra poco, nuove notizie. A più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. Mi auguro che sia un bel campionato, ma io penso che sicuramente la Juventus ha consolidato una struttura già molto importante con acquisti mirati. Io penso che quest'anno abbiano l'ambizione comunque di fare qualcosa di importante a livello di Champions. E dietro ho visto una Roma molto bene contro il Porto, finché è rimasta in 10, ha giocato una grande partita, non era facile giocare in casa del Porto. E poi ci sono altre squadre, il Napoli si sta muovendo, l'Inter stesso. Magari anche il Milan, magari anche il Milan che è 2-1, perché vi abbiamo raccontato nel GR il pareggio di Belotti. Due minuti più tardi è arrivato il 2-1 del Milan e ha segnato ancora l'attaccante che non doveva esserci, Carlos Bacca. Immaginati se non c'era, Giovanni. Seconda palla toccata nella partita e due gol. Carlos Bacca. A sinistra di Niang, molto bello anche questo gol. Sì, difese non impeccabili in questo inizio di secondo tempo. Andiamo a Rio de Janeiro, intanto saluto per Luigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Pier. Andiamo a Rio dal nostro Dario Ricci. 20 pari in questo secondo parziale, rimaniamo attaccati al Brasile grazie a Ivan Zaitsev, splendida l'attacco che pochi istanti fa ci ha garantito appunto il 20 pari malgrado la ricezione imperfetta sul servizio di Lipe, che insieme a Souza è sicuramente tra i più positivi tra i brasiliani, ma finora partita straordinaria di Sergio che da libero gioca praticamente come secondo palleggiatore e riaggiusta parecchie cose nella seconda linea brasiliana. Ma ora seguiamo proprio il servizio di Zaitsev, la battuta deviata dalla rete, dentro, forse ha proprio preso l'angolino, forse sì, è Leis ha preso proprio l'angolino estremo di quel campo arancione e davvero ci strappa un sorriso. 21-20 per gli azzurri, ci aggrappiamo a Ivan Zaitsev e il time out chiesto da Bernardino in questo istante per interrompere il ritmo di battuta proprio del nostro fenomenale schiacciatore. Siamo avanti un punto nel secondo parziale, ricordo Brasile però che ha vinto il primo parziale avanti per 1-0 per 25-22. Giovanni, immensa sofferenza Pier, immensa sofferenza. Sì, assolutamente, anche perché ultimo giorno, sappiamo che quell'oro lì potrebbe cambiare anche il nostro posto del medagliere. Poi ovviamente quello che conta è il senso complessivo di questa Olimpiade, che mi sembra sia stata positiva, con la scherma che ha un po' tradito la tradizione eccezionale che avevamo, è andata benino ma non benissimo, con il tiro che ci ha portato in questo momento praticamente la metà delle medaglie, e con qualche impresa, qualche delusione, la polemica ovviamente, Schanzer poteva essere una medaglia quasi sicura, secondo quello che ci raccontano gli esperti di atletica, però mi sembra una buona Olimpiade, mi sembra che da un punto di vista poi di valutazione politica dello stato di salute dello sport italiano siamo sempre competitivi e non abbiamo fatto male. Sì, anche perché, ma poi tra qualche minuto ne parliamo con Giovanni Bruno, in realtà ci portiamo a casa 3 medaglie su 4 sport di squadra che abbiamo portato a Rio e queste sono medaglie che generalmente pesano tantissimo. Tra poco a Rio torniamo, dal nostro Dario Ricci. Pesano poco dal punto di vista numerico, perché ovviamente un intero torneo di basket, di pallavolo, di pallanuoto, di calcio, poi alla fine ti dà una sola medaglia, poi magari ci sono discipline meno importanti dal punto di vista del percepito, con tutto il rispetto, che hanno magari 20 discipline diverse dove puoi fare veniamo da diverse Olimpiadi in cui gli sport di squadra erano finiti sul banco degli imputati, perché dico, è molto positivo. Ma la pallanuoto ha fatto cose eccezionali soprattutto a livello femminile ma anche a livello maschile, la pallavolo sappiamo insomma intanto ovviamente. Attenzione perché c'è una chiave, andiamo da Dario Ricci a Rio. Dario? Eccomi, c'è una contestazione in questo istante degli azzurri sul 21 pari, perché sull'attacco di Zaitsev gli azzurri hanno chiesto il challenge, di fatto la moviola, chiedendo un tocco da parte del muro brasiliano, tocco che anche alla luce del replay gli arbitri non hanno visto, ma che pure, malgrado il replay... Ma noi l'abbiamo visto benissimo. Con la ripresa da dietro, anche la moviola può sbagliare. 8-0-0-24. Non so, mi sembra parecchio accesa la protesta degli italiani. Ma il tocco c'era, leggero, ma c'era. Sì, con il dito medio della mano sinistra. È l'impressione che ho avuto anche io dal campo, da sottolineare anche che nei momenti dei cambio palla, intanto Zaitsev fa l'attacco 22-21 per gli azzurri, vi sottolineo questo, nei momenti di cambio palla i brasiliani richiedono spesso l'intervento degli inservienti per asciugare il parquet, ma anche e soprattutto per interrompere il ritmo di battuta degli azzurri. Questo capita in particolare proprio quando va in battuta Zaitsev, che sicuramente è il battitore più temuto, insomma. Ci provano in tutti i modi, forse anche legittimo. Sì, però... chiamata pesantissima, perché sarebbe stato il punto del 22-20 con relativo break per l'Italia. Siamo sul finale di questo set. Oggi è giornata in cui abbiamo poca fortuna con le chiamate arbitrali o dei giudici. Abbiamo sentito prima di Malagò infuriato per il quarto posto delle nostre ragazze della ginnastica ritmica. Torniamo da Pierluigi Pardo. Pier, stiamo intanto vedendo il Milan, avanti 2-1, undicesimo minuto nel corso del secondo tempo, partita in cui almeno in questo secondo tempo stiamo vedendo difese parecchio allegre. Sì, difese da un po' agostane, stiamo vedendo in questo momento. Sinceramente me la state raccontando voi, perché sono a fare diretta premium di Pescara-Napoli, quindi sono abbastanza impreparato e anzi ho usufruito dei vostri resoconti. Mi sembra che insomma Bacca si confermi come un giocatore che al di là di tutte le del fatto che magari è poco pubblicizzato, che rispetto per esempio all'opzione Icardi a Napoli è stato visto da sempre anche nel percepito come una seconda scelta, mi sembra un giocatore che alla fine, se guardiamo i numeri negli ultimi 4 anni, ha girato su medie quasi da 25 gol a stagione, quindi fra Bruci, 2 anni a Siviglia e 1 anno al Milan, quindi vuol dire che è un giocatore che segna tantissimo e mi pare che si sia già portato avanti. E poi ovviamente questa è una partita segnata dall'infortunio di Ljajic, che rischia di, non dico di compromettere, ma insomma di condizionare abbastanza pesantemente l'inizio della stagione del Torino, perché è il giocatore che era il giocatore che doveva dare la qualità, l'imprevedibilità, non voglio dire che tutto il Torino fosse costruito attorno a lui, ma quasi. Senti Pier, che sensazioni ti ha dato la Roma che hai visto e commentato 2 volte a Stretto Giro di Posta? È ancora migliorabile. È migliorabile secondo me proprio in quello che si dice in questi giorni, cioè con quel nome che Borja Valero, che mi sembra perfetto sinceramente, perché è un giocatore, perché la Roma deve migliorare nel possesso palla. In questo momento a centrocampo ha dei giocatori di grande forza fisica, Pringolan che sappiamo ha sia qualità che quantità, adesso sentirete una signorina di un ecco che mi chiederà il casello autostradale, sentiamo che dice. Introdurre la tessera. L'ho introdotta la tessera, signorina. Ritirare. Allora, intanto che introduci la tessera, andiamo a Rio de Janeiro. Carta illegibile, è una sconfitta. Sì. Carta illegibile. Andiamo a Rio de Janeiro, siamo nelle fasi cruciali del secondo set. Dario. 24 a 22 per il Brasile, c'è stato l'attacco out di Juan Torreina. Il nostro schiacciatore ha chiesto anche in questo caso il tocco a muro, niente da fare. Bruno al servizio, out, questo sì, fuori di mezzo metro. Quindi 23 a 24 per il Brasile, ma siamo ancora attaccati a questo sogno d'oro. Entra ora Sottile nel giro in battuta. Entra il Sottile per Buti, andrà proprio lui, il nostro palleggiatore di riserva, di fatto in battuta. 24 a 23 per il Brasile, ma è battuta per gli azzurri. Seguiamo questo set point per il Brasile. Bruno alza per Wallace, il tocco Sottile proprio, salva, lanza, riporta verso Giannelli che riesce a mandare di là, e troviamo il 24 pari, e troviamo il 24 pari grazie a Lucarelli che ci ha fatto questo bel regalo, perché Giannelli poco più che mandarla di là non è riuscito a fare. Forse i brasiliani si stanno già al contrattacco e hanno mancato la facile ricezione. 24 pari, ci siamo ancora attaccati a questo sogno d'oro, ragazzi. Forza azzurri, forza ragazzi. Ti vai vantaggi. 24 pari, siamo ai vantaggi, ma che peso quella chiamata sul 21 a 20 per l'Italia. Sì, ma gli arbitri non erano tutti mano a Putin. Tanto Torino vicinissimo al pareggio con una diagonale di Maxi Lopez, che è entrato in campo da non più di 60 secondi al posto di Vives, il suo diagonale destro, palla che sfiora il palo alla destra di Donnarumma che era proteso in tuffo. Partita ancora apertissima, tutt'altro che scontato finale. Torniamo invece da Pierluigi Pardo. Sei riuscito a pagare l'autostrada, tanto per cominciare? Sì, tutto a posto. No, sul discorso sulla Roma. Sulla Roma secondo me un palleggiatore in più in mezzo al campo serve. È una squadra già molto buona così, è una squadra che ha grande fisicità e anche delle qualità sicuramente nel mezzo molto importanti, con Nainggolan soprattutto, però sono qualità secondo me più legate allo strappo, all'inserimento, alla capacità anche di trovare il gol. Nicolò lo scorso anno ne ha fatti 6 nel girone di ritorno, con Spalletti è cresciuto tantissimo, insomma è un centrocampo che ha una dimensione molto molto spiccata e molto precisa, e secondo me in certi momenti, si è visto anche nel secondo tempo di grande sofferenza in Portogallo, invece c'è bisogno anche di ragionare, c'è bisogno anche di congelare, sì, il possesso del pallone. Paredes non è piano, cioè, andiamo a Rio da Ricci. Eccolo, no, 25 pari, era il set point azzurro, Azzurri, c'è stato un tocco a muro, ma faccio evidente, sì, 25 pari, peccato perché veramente ci eravamo ricostruiti in questo primo set point in maniera straordinaria con uno splendido muro di Pirarelli, sontuoso oggi, sia a muro che in battuta, la sua flottante mette più in difficoltà quasi dei bolidi di Zaitsev, la ricezione brasiliana, poi il tocco a muro nel tentativo di contrastare l'attacco brasiliano e siamo 25 pari. Ecco, tanto c'è rigore per il Milan, eh? Errore, altro set point per gli azzurri, errore di Lucarelli in battuta e siamo 26 a 25 per l'Italia che gioca il set point sulla battuta del palleggiatore Giannelli, palleggia e pronto al lancio Giannelli, il nostro regista, ah, peccato l'errore e non è il primo, ai noi, in questa partita, fa difficoltà Giannelli a entrare in ritmo col servizio, peccato, sprechiamo questo secondo set point e il Brasile certo non ha bisogno di regali, 26 pari Giovanni, 26 quando Sousa adesso va in battuta, uno dei più positivi, il giocatore che ci sta facendo più male forse nella metà campo verde-oro, seguiamo un attimo questo attacco, vediamo. Intanto raccontiamo da qui il calcio di rigore per il Milan contro il Torino, siamo nel 17° minuto del secondo tempo, va ancora Bacca. Bacca sul dischetto, pallone in rete e sono tre. Tripletta per Bacca. Tripletta per Bacca. Che non doveva esserci. Il giocatore che non doveva esserci, torniamo a Rio. Adesso il set point è per il Brasile. Dicevamo la battuta di Sousa, abbiamo provato a ricostruire l'attacco, ad attaccare, ma il muro a tre su Zaitsev ha chiodato il pallone nella nostra metà campo. E allora set point Brasile, ancora Sousa alla battuta. Flottante, no, l'errore di lancia, ancora una volta incerto, ha cercato incerto ricezione ed il Brasile va sul 2-0, 28-26, peccato, davvero un peccato perché siamo rimasti incollati al set per tutto il parziale, siamo stati anche avanti, abbiamo avuto due set point, ora l'errore di lancia, tra l'altro a lungo sostituito durante questo secondo parziale da Antonov in maniera direi più positiva, ancora una volta i brasiliani hanno scelto lui come bersaglio del servizio e ancora una volta ahimè, il nostro numero 10 non ha risposto presente, ma c'è ancora un parziale da giocare, almeno un parziale, rimaniamo incollati a questo sogno d'oro, Brasile avanti però 2-0, 25-22, 28-26 Giovanni. Sì, e restiamo anche con un po' di amaro in bocca, Pier, e non l'Italia migliore. Sì, moltissimo, perché anche questa non la sto vedendo, ma io non lo so, chiaro, mi sembra chiaro che siamo punto a punto e che qualche episodio chiave non va nella nostra direzione, poi ovviamente insomma quando si arriva a questi livelli a giocare finali così equilibrate veramente stiamo parlando di dettagli, mi viene in mente il discorso che spesso fanno gli allenatori in Champions League quando parlano veramente di minor details, cioè di partite che vengono decise a grandi livelli in gara secca o comunque dei 180 minuti da un singolo episodio e quindi in questo momento è molto complicato anche perché aver perso due set in questo modo paradossalmente è peggio ancora che averli persi nettamente, quindi vediamo, speriamo bene. Questa è una nazionale che ci ha insegnato che si può risalire da qualunque buco. Certo, ma non l'Italia migliore però. No, non l'Italia migliore. Non l'Italia migliore. C'è la tensione, c'è davanti un avversario importante, c'è un ambiente che abbiamo sentito dal racconto del nostro Dario Ricci, è sinceramente impressionante. Tanto Milan 3-1, siamo nel 20° minuto del secondo tempo, tripletta di Bacca e io credo che insomma iniziare la stagione con la tripletta dell'attaccante che hai cercato di vendere al miglior offerente di tanto dell'estate ancora, folle del Milan, forse stai ancora cercando di vendere al miglior offerente come si diceva prima con Roberto Renga per promuovere magari la Padula che certo non fino adesso non ha dimostrato nulla, no, in Serie A non per colpa sua, però insomma Bacca mi sembra abbastanza una garanzia. Le cifre che girano per Bacca, la quotazione di Bacca non mi sembra neanche trascendentale, tra l'altro Giovanni. Sì, per 30 milioni in un'estate in cui gli attaccanti vanno via a 60-70, io credo che si potesse fare per tanti, ma è la fortuna del Milan che si è rimasto. Pier, cosa ti incuriosisce di più questa sera? Io personalmente ci metto in testa come curiosità vedere il Napoli senza Higuain, più ancora della prima Inter vera di De Boer. Io sono molto, sono chiaramente le due partite più interessanti della serata, quelle più di cartello, Io sono curioso di vedere il Napoli in generale senza Higuain in questa stagione, perché come diceva ad esempio l'altro giorno Sacchi, poi alla fine stiamo parlando di una grande perdita, non c'è alcun dubbio, cioè la partenza di Higuain, ma c'è anche la curiosità di capire quanto il Napoli abbia fatto bene a Higuain. Higuain ha fatto benissimo a Napoli l'anno scorso, non ci sono dubbi, ha fatto benissimo a Napoli in questi anni, però è anche vero che si è trovato in una squadra che ha avuto un grande possesso palla, che ha avuto dei record assoluti come numero di tiri in porta, non a caso il secondo giocatore più prolifico come tiri in porta della passata stagione si chiama Insigne, quindi è una squadra che ha funzionato dal punto di vista del gioco offensivo tantissimo, e Higuain è stato poi meraviglioso nel finalizzare. Però appunto questa è una curiosità che ho, e poi sono anche curioso di capire se il Napoli farà altro sul mercato da qui fino al 31, perché comunque il budget ce l'ha per poter fare delle cose, quindi credo che anche la partita di stasera in qualche modo le prime indicazioni potranno dare al Napoli poi anche una strada possibile sul mercato. Sì, anche e poi se, l'Inter, anche se, sicuramente no, l'Inter a me incuriosisce tantissimo. Nicola, dove Nicola? Scommetto che Nicola è lì con Pardo. C'è Maximovic dalle tue parti, Pier. Senti, Pardo, abbiamo qui Sinisa che lo sta cercando. Noi abbiamo problemi in difesa, però bisogna dire che Paletta lì ha fatto una cosa che sì. Una cosa che non bisognava fare. Però Nicola è con te, perché se io prendo questo giocatore gli spacco panettone di Vukovar in testa, no, e tu così. Sai che panettone di Vukovar è molto legnoso, pesante, perché come sono panettone di Vukovar, mister? Il panettone di Vukovar ha pistacchi sempre scaduti. Ah ok, quindi è rigido. È pesantissimo, particolarmente duro. Intanto Bacca sta facendo a fette la difesa del sì, Toro. Sì, ma basta con questo Bacca. Si è presentato solo davanti a Padelli. Quando facevo giocare Bacca, da me non faceva questo schema. Adesso loro con Paletta, questa è la cosa, non va bene. No, ma Paletta gioca nel Milan, non è un problema. Non Milan, è il problema che c'è Paletta e sì, quindi ma c'era Bacca. Calcio di rigore per noi. Sì, è vero, c'era anche c'era molto probabilmente un calcio di rigore per il Toro nel primo tempo. Però Bacca è uno spettacolo oggi da vederlo. Dobbiamo fermarci? Riusciamo a fare 30 secondi a Rio da Dario Ricci per capire come inizia il terzo set? Eccoci ragazzi, siamo sul 2-2 all'inizio di questo terzo set. Ci ha ripensato ancora una volta Sanzaiz a rimettere a posto una ricezione sbagliata da lui stesso e in parte salvata questa volta da Lanza. E adesso è Guantorena al servizio 2-2 tra Italia e Brasile, ma brasiliani avanti per 2-7-0, 25-22, 28-26 i parziali in questa finale per l'oro olimpico. Noi vogliamo continuare a crederci che ci sia partita, ci sia ancora un sogno per l'oro. Ci fermiamo, torniamo subito. Pam, pam, pam, pam, pam. Tutti convocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. 20 minuti alla fine di Milan-Torino, 3-1 per il Milan. Toro che ci sta provando un paio di conclusioni, è stato anche sfortunato. Pochi istanti fa con un rimpallo sulla schiena di un giocatore davanti a Donnarumma, 3-1 però per il Milan, tripletta di Bacca in mezzo al pareggio che è durato meno di due minuti di Belotti. Torniamo a Rio de Janeiro dal nostro Dario Ricci. 4-4 e c'è un errore in battuta di Zaitsev, peccato, il Brasile si ritrova avanti di un punto, 5-4, in precedenza aveva sbagliato ancora Giannelli che questa sera ha davvero difficoltà in questo fondamentale, e chiaramente sono punti che regaliamo al Brasile. Vediamo Lucas, però bravo Colaci nella ricezione, Giannelli in attacco per Lanza, bravo Lanza, il nostro numero 10 che si sta ritrovando, ha trovato un paio di punti in questo inizio del terzo parziale e firma adesso il 5 pari e va a sua volta in battuta. Giovanni, 5 pari dunque, terzo set tra Italia e Brasile. Brasile avanti per 2-7-0. Dicevamo, non ci sono solo Napoli e Inter questa sera. ed è la prima di campionato. La prima nasconde sempre grandissime insidie, lo insegna anche il fatto che noi l'anno scorso abbiamo battuto il Napoli, che poi è stata una delle protagoniste del campionato. Che la cosa più importante in questo momento è più il recupero che il lavoro, è fondamentale. Sappiamo questo perché di lavoro ne abbiamo fatto tanto in precedenza, adesso è fondamentale far capire ai ragazzi di dover recuperare energie mentali come le devo recuperare io per poter dare a loro il massimo, la massima carica per questa gara. Se dovessimo fare una scelta, no, su chi affrontare la prima del campionato, probabilmente tutti tendenzialmente scanserebbero la Juve piuttosto che il Napoli o queste grosse squadre, no? Ma questo è solo un discorso così, giusto per dire qualcosa, perché poi per un motivo o per l'altro tutte quante hanno il dovere e il diritto di giocarsela, no? E quindi il Crotone ha maggior ragione, che è una squadra non è promossa. Sì, no, in effetti per noi è un po' preparare la partita un po' alla cieca, nel senso che comunque hanno fatto una partita solo con il nuovo allenatore e credo che questo dia pochi indizi a noi, però insomma, dobbiamo comunque, come sempre facciamo, dobbiamo lavorare su noi stessi e sulle cose che dobbiamo fare noi. Quello che è successo ieri mi ha lasciato un attimino diciamo basito, perché il ragazzo ha sentito un dolore, l'esame risultava negativo, poi stamattina ha continuato a dire che il dolore era presente, quindi ne prendo atto. Sicuramente avrei voluto utilizzare Keita, soprattutto in questo momento che dobbiamo ancora trovare il sostituto di Candreva, però vado avanti, come ho detto prima, con quelli che sono felici di essere alla Lazio. L'ultimo era Simone Inzaghi sul caso Keita. Oggi la Lazio ha fatto un comunicato, è muro contro muro con Keita, che io credo difficilmente andrà via in questo mercato, anche se è una vicenda paradossale tra le mille, Pier, di quest'estate. C'è Maximovic che scappa in Serbia, c'è Keita che si dà malato, c'è chi non è rientrato dalle vacanze. Ma allora è scappato in Serbia. Vediamo anche non si presenta al ritiro, no? Ci sono delle cose. Sei tu Pardu che hai, ma allora no, io c'è Serbia, dove cazzo è andato questo Maximo? Guarda, devo dirti la verità, a parte dove sono andato io, dove è andato Maximo, no, a parte questo, mi sembra che in generale si chiedano cose che banalmente 10 o 20 anni fa non si vedevano. Non vorrei passare per bacchettone o per, diciamo, ormai anziano, quale sto diventando, quale sono. Però insomma, ecco, vedere Diawara o vedere Keita, ragazzi di 18, 20 anni, 22 anni, che proprio non hanno, diciamo, nessuna idea di timore dell'autorità, no? Che magari sono spinti dai propri procuratori. Beh, certo, gli dicono di comportarsi così. Gli dicono di comportarsi così, no? Per arrivare allo strappo, per arrivare alla rottura. Non è il massimo. Lo cito nello specifico, mi sembra uno duro da questo punto di vista. Cioè, non credo che si metta paura o che accontenterà il giocatore. C'è un'ipotesi abbastanza suggestiva alla Lazio, che è quella di Balotelli, con tutti ovviamente i punti interrogativi del caso, che mi sembra un'ipotesi che ci sta. Ci sta perché Balotelli deve rilanciarsi e perché la Lazio ha cercato con Bielsa in maniera molto forte. Io sono sicuro che una volta tanto lo dito che spesso ha provato, tra virgolette, a fregare, no? A essere il più furbo di tutti nelle trattative, e sto giro invece è stato fregato lui. Ma sicuramente lui l'offerta da Bielsa l'aveva fatta ed era il suo modo per provare a recuperare un certo tipo di rapporto con l'ambiente. Poi ha cominciato a fare delle cose, secondo me, di buon senso, dal punto di vista della comunicazione, nell'ultimo mese sicuramente ha anche, secondo me, migliorato la squadra, perché Immobile secondo me è un grande colpo. Balotelli sarebbe una scommessa, ma potrebbe essere quel tipo di giocatore capace di far sognare il popolo biancoceleste, devi dare una prospettiva un po' diversa, perché sappiamo che ovviamente contano i risultati, ma conta anche il fatto, soprattutto in grandi piazze, la Lazio certamente lo è, di avere qualcuno che ti fa sognare, no? Che riaccende una scintilla di entusiasmo. Poi Balotelli, le incognite sono migliaia, sì, però milioni di milioni, credo sia più che altro una scommessa oggi. Sì, però, certo. Speriamo però che qualcuno la faccia. Speriamo che qualcuno la faccia. No, ma la faccia lui per primo. La faccia lui per primo. Speriamo che qualcuno si accolli questa. Però ecco, questa scommessa. A me sembra che il momento di Lotito coincida con questo possibile acquisto, perché Lotito quest'estate aveva voglia con Bielsa e secondo me potrebbe avere voglia ancora oggi di sorprendere i tifosi della Lazio. Poi con Bielsa gli andrà malissimo, è stato un boomerang incredibile, però l'idea sua secondo me è questa, che l'ordinaria amministrazione non basta, la gestione oculata non basta, il quinto sesto posto non basta più, non basta, non in, basta in una più, piazza come comunque, quella di Roma. Comunque puoi anche prenderlo, ma hai bisogno di qualcosa che riaccenda nel tempo. Massimo Paganin, ciao. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ti rubiamo davvero due minuti perché sei a Verona, questa sera commenti Chievo-Inter per Mediaset Premium. Tu te lo prenderesti Balotelli alla Lazio? No, è un punto un po' difficile, nel senso che ha riprovato tante volte a dimostrare quello del quale è capace, manca ancora qualche cosa, quindi non lo so, non è semplice, credo passi tutto attraverso proprio il giocatore, attraverso quello che è disposto a fare, perché i risultati si ottengono solo ed esclusivamente se sei disposto a fare dei sacrifici e delle rinunce, devono essere vere, devono essere fatte con consapevolezza e devono essere portate avanti per tanto tempo, e allora si ottengono dei risultati. Certo. È chiaro che secondo me Balotelli ha fatto un percorso un po' particolare, c'è stato un periodo della sua vita dove ha smesso di fare dei sacrifici e delle rinunce e quindi deve ricominciare da un certo punto e deve sapere che per tanto tempo lo dovrà fare per tornare ad ottenere dei risultati, perché le sue potenzialità, le sue qualità come giocatore sono indiscusse. È chiaro che manca però quel qualche cosa, che è quella cattiveria agonistica, quella determinazione, quella fame, quella voglia di arrivare, di dimostrare di essere più bravo degli altri. Certo, ragazzi, che mette tristezza pensare a un giocatore, a un ex giocatore di 25 anni. 26, eh? Li ha fatti a Ferragosto. Va bene, Giovanni, 26, però mette tristezza pensare ad un ex giocatore di 26 anni. Tra 3-4 anni, se anche dovesse continuare così, secondo me ci sarà sempre qualcuno che proverà la scommessa, perché uno di quelli che il colpo ce l'avrà sempre. In questo, secondo me, il paragone con Cassano ci può stare, anche se devo dire la verità, la carriera di Cassano comunque è stata più costante. Cassano ha fatto più di 100 gol in Serie A, che insomma, non è che voglio difendere l'amico mio, però ha sicuramente fatto molto meno di quello che poteva fare, però comunque ha avuto degli anni che sono stati molto densi, alla fine 7-8 stagioni della sua vita fra la Roma e la Samp sicuramente sono state di livello buono. Balotelli ha più tempo ovviamente a disposizione, però la sensazione è che il crollo sia stato più verticale, quello che si è visto, o meglio che non si è visto quest'anno per esempio, è abbastanza incredibile. Sembrava che il Milan 2 anni fa l'avesse sono due anni che di fatto esatto. Voglio chiedere a Massimo, che poi lasciamo ai suoi impegni di telecronaca, che sensazioni ha sull'Inter che commenterà questa sera Verona contro il Chievo. Ha detto De Boer: voglio un Inter che sia piano piano capace di comandare il gioco, che per l'Inter è anche una rivoluzione dal punto di vista culturale. Sì, sicuramente è una rivoluzione dal punto di vista culturale. Comandare il gioco non è facile, non è per tutte le squadre, ci vuole grande capacità, metodo, ci vuole un lavoro importante, soprattutto per ciò che riguarda la fiducia, la consapevolezza e la qualità del gioco. Quindi non è una cosa semplice. Credo che l'unica cosa che possa chiedere De Boer in questo momento sia, al di là di tutto, visto che sta lavorando da 15 giorni, è quella che è la determinazione, la convinzione, la voglia di comandare il gioco. Poi eventualmente vedrà quelli che sono i correttivi da apportare, ma credo quello che si aspettano tutti questa sera è di vedere un'Inter propositiva, con quella determinazione, quella convinzione che la deve portare per forza a colmare il gap con quelle che stanno davanti, che hanno già iniziato a vincere, perché la Juve ha già cominciato a vincere ieri sera una partita non semplice con la Fiorentina, la Roma ha stravinto in casa con l'Udinese e oggi toccherà alle altre, perciò il Milan ha vinto perché ormai ha vinto contro il Torino questa sera, perciò non c'è tempo da perdere, il campionato è iniziato ancora qualche settimana fa, perciò non c'è tempo, non c'è la possibilità di prendersi indietro e soprattutto c'è la necessità di lavorare nel giusto modo, nella giusta direzione, visto e considerato che la squadra ha fatto un certo tipo di lavoro con un altro allenatore, adesso si è ritrovata negli ultimi 15 giorni a cambiare quella che è la mentalità, perciò non sarà semplice, un grosso in bocca al lupo a De Boer perché c'è tanto lavoro da fare. Sì, in questo si è assunta una grossa responsabilità l'Inter a cambiare l'allenatore a un paio di settimane all'inizio della stagione, una stagione in cui Juventus a parte, quelli dietro per il secondo e terzo posto sono tanti, sono agguerriti, abbiamo visto ieri la Roma, oggi vedremo il Napoli e di sicuro l'Inter c'è il rischio che non si possa permettere i 4 mesi che ha chiesto De Boer, no Massimo? No, non se li può permettere, sono troppi. Assolutamente, 4 mesi sono troppi, assolutamente, per una società come, per un club come l'Inter, al di là di tutto, perché sì, è chiaro, da un'altra parte magari 4 mesi potevano starci, ma è chiaro che in club così importanti, parlo di Inter, poteva essere il Milan, la Juve o in questo caso anche la Roma e il Napoli, non si possono permettere 4 mesi, perché è chiaro che gli altri rischiano di scappare, non li prendi più e diventa una stagione nella quale devi rinunciare alla Champions League anche per il prossimo anno, comincia ad essere abbastanza importante il buco e di conseguenza dovrà immediatamente cominciare ad ottenere dei risultati. Purtroppo in grandi club questo è quello che si chiede all'allenatore, anche se ha iniziato da 15 giorni. Sì. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie. Buona partita, Chievo-Inter che commenterà su Premium. Comunque abbiamo detto molte volte che è vero, l'Inter ha cambiato allenatore alla vigilia del campionato, questa è praticamente una squadra ignota, non l'abbiamo ancora vista, l'Inter di De Boer, non avrà tempo. Secondo me è una squadra dal punto di vista organico più competitiva rispetto a quella dell'anno scorso. Io credo comunque che nonostante il ritardo nel cambio di Mancini fosse qualcosa di obbligato, perché abbiamo detto molte volte il rapporto di fiducia tra il club, sebbene nella sua confusione, e l'allenatore si era spezzato. Andiamo a Rio, Dario. 15 a 14 per il Brasile in questo terzo parziale, brasiliani avanti 2-7-0. Rimaniamo aggrappati a questo match, a questa finale olimpica, grazie a Capitan Mirarelli che prima ha piazzato una veloce ed un muro e anche un muro di Gianelli. Riproviamo il contrattacco, bravo in questo caso ancora Mirarelli, stratosferico in questo istante, muro è fuori e siamo 15 pari, e siamo 15 pari. Gli azzurri non mollano, gli azzurri non mollano, e questo è fondamentale, perché questa partita è ancora viva, ancora c'è. Vediamo il turno di battuta di Gianelli, prima ha scelto una flotte, adesso torna la battuta in salto, bene la battuta lì, per difficoltà in ricezione, il fallo a muro di Bruno, e allora 16 a 15, bravo Gianelli che non si è lasciato intimorire dagli errori precedenti e ha ripreso a battere in salto. 16 a 15 per gli azzurri, ed è time out richiesto da Bernardino che con esperienza va a interrompere il ritmo in battuta degli azzurri. Quando la ricezione funziona, come nel caso precedente con l'Ansia, riusciamo ad attaccare con fluidità. È stato prima appunto Mirarelli ad avvantaggiarsene con una splendida veloce. E anche questo set è sul filo dei punti tra Italia e Brasile. 7 minuti alla fine di Milan-Torino, 3-1 per il Milan. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. L'Italia sta cercando lo strappo. Pier Rio, andiamo dal nostro Dario. Dario? Eccomi. Eccoci qua ragazzi, 18 a 15 in questo istante. 18 a 15 in questo istante per gli azzurri. C'è stato il tocco, la schiacciata, l'attacco fuori di Wallace, ma i brasiliani chiedono il challenge, immaginando un tocco a muro. Vediamo come, qual è la decisione del challenge. Intanto 18 a 15, un'Italia che è ritornata prepotentemente in partita, trascinata da Mirarelli pochi istanti fa, l'attacco di Lipe, il muro di Mirarelli e Zaitsev che ci ha garantito il 17 a 15. Tocco netto, tocco netto, c'è il fallo, il tocco netto del muro azzurro. Siamo quindi sul Sì, 17-16, tocco netto qui, c'è poco da dire. Saluto Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport. Direttore, ciao, buon pomeriggio. Eccoci, sto soffrendo come una qui bestia. C'è poco, una qui c'è bestia, poco da dire. Nel secondo set noi invece opiniamo su quella chiamata sul 21-20 in cui invece il challenge dell'Italia è stato respinto. Io non so come l'hai vista tu, poi adesso non, diamogli il giusto peso, però questa è la domenica in cui qualche dubbio sulle chiamate arbitrali dei giudici ce lo possiamo permettere. Sì, no, beh, guarda, per me era l'avevano toccato col dito medio, l'ha toccata, esatto, sfiorata, toccata, cioè era abbastanza lampante. Questo, lampante no, ma comunque l'ha toccata. Poi mi fido molto della correttezza di Blengini, noi ci comportiamo in maniera molto corretta, cioè ammettiamo il nostro, nel nostro piccolo magari l'errore o cose di questo genere, però la realtà, dicevi bene, la giornata quando i commissari tecnici dei mongoli si mettono nudi quasi, diciamo, per le questioni per protestare contro i giudici nella lotta libera, qualcosa ci sta. Sì. Per non pensare poi al pugilato, signori miei, là ci sono state fatte delle cose mai viste, cioè mai viste, ne ho viste tante, perché ricordo ancora quando il pugile americano non si spostava più dal quadrato del ring, Seul 88, e prima avevano rubato un ardello. Sì, vabbè, ma ce ne stanno una, cioè, quando c'è il giudizio così, vabbè, è un peccato, perché poi, insomma, devo dire, i brasiliani approfittano del nostro grande nervosismo. Lo Zar è molto nervoso, non riesce a chiudere, quindi questa è la cosa. Sì, è un peccato. Ma, posso dirti, Giovanni, non la migliore Italia di questo torneo, Poi è chiaro, è una finale, giochiamo in trasferta, la tensione, quello che vuoi, però per alcuni aspetti, alcuni dettagli, non l'Italia migliore di questo torneo. Verissimo, anche perché, ti ripeto, sono nervosi, io non lo so, non è la migliore Italia, stanno facendo un sacco di errori in battuta, un sacco di errori, troppi cambi, non lo so, li vedo così, sarà perché mi sento pure io così, sto continuando a prendere a calci qualunque cosa che trovo vicino, non so come vi sentite voi, ma purtroppo è così. Intanto abbiamo preso un'altra medaglia, intanto andiamo a quota 28. Chiuderemo a 28 come Londra 2012. Speriamo non con lo stesso numero di ori, non è detto. No, infatti. Non è ancora finita qui, a Londra furono 8, sono 8 anche adesso, ma sì, c'è questo qui che balla. Più argenti, che voto dai all'Olimpiade italiana? Allora, l'Olimpiade italiana gli do, da come eravamo partiti, da come erano i pronostici, da come cose, gli do un bel 7 pieno. Un 7 pieno perché secondo me, al di là delle classiche individualità e del bottino nel tiro micidiale da questo punto di vista, che però comunque è mancato l'arco, sono arrivate più medaglie magari dal tiro a volo, è mancata Jessica Rossi, sono arrivate più medaglie nel tiro a segno, però la realtà è che si è bilanciato. E l'altra cosa invece secondo me è molto importante, che noi abbiamo operato su tantissimi sport di squadra, che vuol dire fare movimento, che è molto positivo, due volte la palla a nuoto, la palla a volo che stiamo vedendo, il beach volley, secondo me lì abbiamo lavorato bene. Io sono molto deluso dalla vela, perché confidavo molto per 3 medaglie, non ve le nascondo, ma erano Tartaglini, Conti e il Nacra con Sicurì, speravo molto da lì. Per il resto, ti ripeto, una spedizione da 7, quando il CONI chiedeva 25, i giornali... Poi abbassate a 20, se ti ricordo. Sì, vabbè, ma quella è stata una furbata. Secondo me è stata una furbata. Sì. Comunque no, arrivare a 28 è molto, molto positivo, secondo me è molto positivo come cosa. Sì, quindi sottolineava, lo merita. Direttore, sottolineava prima anche Pierluigi Pardo, la scherma, non la solita barca delle medaglie, Momento allora, di ricambio generazionale, certamente. Dopo tutto quello che ci ha dato. Hai perfettamente ragione. Cioè, il problema nostro è mancata. Vabbè, per una rotazione è mancata la classica medaglia che poteva arrivare dal fioretto femminile a squadre, questo è poco ma sicuro. Però la realtà è che ci deve essere i cambi. La spada è stata abbastanza deludente per il semplice fatto, anche se noi avevamo una sola atleta, però il problema è quando ti dico una sola atleta, non puoi arrivare all'Olimpiade con una sola atleta nella spada, le altre non si è riuscita a qualificarsi, dobbiamo fare un passo indietro. E per quanto riguarda il resto, c'è arrivata una buona situazione della spada maschile, ma nella squadra. Fioretto, bene Garozzo, cioè, comunque sono arrivate le medaglie, non abbiamo dato quell'immagine di grande solidità. E vedere dall'altra parte una Russia che ci ha tolto i podi migliori mi dava fastidio da un punto di vista del resto, che ho visto il e del resto ci aveva tolto anche il tecnico migliore, certo, è Cerioni. Ma sì, ma quando tu si dai a Cerioni diciamo 5 volte lo stipendio che prenderebbe dalla nostra federazione, che fai? Fai Cerioni, scappi. No, ma è giusto che se ne vada. Intanto ha segnato il Torino 3-2, siamo nel primo dei 4 minuti di recupero. Baselli gol del Toro 3-2, quindi c'è un finale di questa partita che sembrava chiusa con la tripletta di Bacca, e invece è stata riaperta da Baselli, anche qui difesa del Milan assolutamente rivedibile. Saluto Giovanni. Ciao, Bruno, grazie direttore. Grazie a voi. Ciao, grazie direttore. A voi, un salutone. 22 a 21. Pier, saluto anche a te, ti lascio a pescare a Napoli. Ciao Pierino. Ciao ragazzi, ciao. Alla ciao. Ciao per Luigi Pardo, c'è già Stefano Eragno collegato, che saluto invece. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Ma andiamo subito a Rio per farci raccontare un minuto della finale Italia-Brasile. 23 a 21 per il Brasile, ma gli azzurri chiedono di nuovo il challenge invocando una deviazione a Muro che in questo caso sarebbe davvero provvidenziale. Il Brasile sta andando via, si è affidato alla mano pesante di Wallace che ha trovato ora continuità, ha messo a terra 18 punti, il miglior marcatore della sfida. Touch, fortunatamente è toccato quel pallone dal muro brasiliano e allora il punteggio è di 22 a 22. Torniamo fra pochi istanti a Rio de Janeiro. Stefano Eragno invece, ultimi istanti di Milan-Torino, che voto dai a questo Milan? Ma guarda, fino a pochi minuti fa sicuramente un buon 7, anche perché si sta, non è una stagione semplice, anche perché la società non ha potuto fare grandi cambiamenti in squadra, però devo dire che già il fatto di aver preso Montella, che è un propositivo, e la squadra sta già muovendosi in maniera per creare difficoltà all'avversario, è normale che manca un po' di ritmo, un po' di aggressività, di velocità, che è quella che poi è stata la pecca un po' di questo sì, è un paradosso che poi alla fine l'uomo del destino oggi sia Bacca, quello messo sul mercato, forse ancora sul mercato. Io mi rifiuto di pensare che domani mattina il Milan possa decidere di vendere Bacca, però è un po' un paradosso che conferma tutta questa estate del Milan. Ti ricordi quello slogan? In questo caso possiamo parafrasarlo: meno male che Bacca c'è per Montella, Stefano. No, ma quello sicuro, anche se ti dico, inizialmente sembrava un giocatore che per come fa giocare il Milan non fosse proprio il più indicato, invece devo dire che quest'oggi si è mosso anche molto bene, come non avevo mai visto muoversi Bacca, oltre ad aver fatto comunque 3 gol che in fase conclusiva si è sempre contraddistinto, però devo dire che adesso diventa veramente dura poter pensare di vendere questo giocatore. Sì, sarebbe veramente un controsenso. Rigore per il Toro. No, ma io non sto vedendo la rigore per il Torino, espulso Paletta. C'è stata una trattenuta proprio sull'altezza del dischetto del calcio di rigore. Siamo al 93-36. C'è il calcio di rigore per il Toro. Allora, dobbiamo fare i vigili. C'è anche il match point per il Brasile. Dario Ricci, Rio de Janeiro. 24-23, l'attacco di Wallace non ha potuto far nulla quanto Rena se non toccare il muro, ma mandando la palla fuori. Sousa, la battuta, la ricezione di Rossini. Colaci alza per Zaitsev contro il muratè brasiliano, un altro miracolo di Zaitsev. Siamo ancora in partita, 24 pari, muro a 3, Zaitsev più che la potenza ha scelto l'intelligenza, ha toccato il pallone deviato dal muro fuori, 24 pari, adesso è Guanto Rena che va alla battuta, fasi decisive di questa finale, fasi decisive, Guanto Rena alla battuta. Eccolo l'italo cubano, riceve Sergio Bruno in attacco per Luca che sigla il 25-24 malgrado la deviazione del muro azzurro, secondo match point per il Brasile, 25-24. Lucas dal centro sulla precisa alzata di Bruno e il Brasile conquista un secondo match point, andrà Wallace alla battuta, molto probabilmente una battuta al salto e probabilmente il suo obiettivo sarà Lanza, quanto mai instabile oggi in ricezione. Zaitsev va a dare il 5 sia a Colaci che a Lanza, i due che si faranno carico probabilmente della ricezione di questo servizio. Wallace col numero 4, grande protagonista dell'attacco brasiliano, sta per prendere la rincorsa nel boato del Maracanazinho, che ora trattiene il fiato, si alza il pallone, la battuta di Wallace flottante su Guanto Rena, Giannelli alza per Zaitsev, il muro. È andata male, 3-7-0 per il Brasile, medaglia d'oro, e invece Stefano, Donnarumma ha parato il calcio di rigore di Belotti e quindi finisce 3-2 per il Milan. Emozionante, è finita anche qui. Ti devo salutare Stefano, è finita la trasmissione, ci sentiamo poi nei prossimi giorni. Che emozioni, tutti in fondo. Grazie Stefano. È destino comunque, vuol dire che quest'anno sarà sicuramente un altro anno per il Milan. Sì, e alle volte le stagioni si leggono anche dall'inizio. Non fa testo la Juve dell'anno scorso, ma tolta la Juve dell'anno scorso, spesso questi sono segnali. Dai fuori degli uccelli. Belotti che piange e ci sono anche lacrime azzurre a Rio de Janeiro. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giovanni Melchiori in redazione oggi per questa lunghissima diretta. Purtroppo è andata male, però è così. Ringrazio Gianmarco Ferronato e Roberta Frisani. Noi torniamo domani dopo il GR delle 14 nel tradizionale appuntamento di tutti i convocati. Ciao. Buonanotte, vado a riposare perché devo dire la verità, sono cotto stasera.